Sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, il padre che scopa la figlia, il nonno Finocchio che incula il marmocchio. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. C'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul, comme un grand connard, comme un agneau dans son igloo, ça plane pour moi. Cruciani che si vuole consacrare alla Madonna. Ma come cazzo fa il diavolo a consacrarsi alla Madonna? Spiegatemelo, per favore, spiegatemelo. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. You are the king of the divan, che me dit en passant. I am the king of the divan. Allora ragazzi, siccome inizia una settimana in cui si parlerà moltissimo di Froce e dintorni, caro Parenzo, io ripeto per l'ennesima volta qual è il pensiero del sottoscritto. È molto semplice, molto chiaro. La Spagna approva i matrimoni gay nel giugno del 2005, eppure le adozioni. Tutto uguale per gli eterosessuali e per gli omosessuali. Hanno cambiato pure la Costituzione. Più di dieci anni dopo... In Spagna le famiglie tra uomo e donna esistono ancora, cioè non hanno preso il sopravvento le unioni gay. I gay non sono aumentati a dismisura in tutta la Spagna, non c'è stato il contagio omosessuale, non siamo diventati tutti froci. Le tradizioni iberiche, dato che si parla di famiglia tradizionale, che io non so che cazzo significa ancora, le tradizioni iberiche non sono state sostituite, che ne so, dai Queen, dai Village People. I locali per sesso gay non hanno preso il posto dei cinema per i bambini. No, è tutto uguale. Uguale! Questo è un fatto. Poi uno può essere a favore del matrimonio, contro il matrimonio, a favore delle adozioni, contro le adozioni. Però non è che c'è la catastrofe che ci viene dipinta dai predicatori religiosi, che io adoro, perché hanno il coraggio di dire come la pensano, perché tutti quelli che andranno a questa famosa manifestazione del Family Day, che sarebbe poi l'antifrocio day, non mi ricordo quando, il 30 credo, è tutta gente che non sopporta la frocitudine. Questo è il punto. Allora, un divorzio ogni 5 matrimoni in Italia, una separazione ogni 3 matrimoni, durata media del matrimonio 15 anni, italiani in cima alla classifica del turismo sessuale, 2 milioni e mezzo di italiane vanno giustamente a prostitute, secondo me. E, insomma ragazzi, la famiglia tradizionale, se proprio uno deve parlare di famiglia tradizionale, non è che viene messa in pericolo dagli omosessuali, dai gay, dalle unioni civili, dai, su, diciamo la verità. Vabbè, ho fatto il predicozzo pure oggi, caro Parenzo, eh? Ho fatto il predicozzo. Visto che sei messo di parola, volevo lanciarti questa idea, visto che Capanna non c'è più. Dunque, la Zanzara parteciperà ufficialmente alla selezione del futuro presidente della Confindustria. Capirai perché? Perché da stasera chiunque, secondo noi, si potrà candidare alla presidenza: Savino da Bari, Mauro da Mantova. E quindi avanzate le vostre candidature. Diteci chi vorreste alla guida di questa importanza. Ma questa è una tua iniziativa che non trova, sì, il mio consenso, cioè no, non trova affatto invece il mio consenso. È straordinario invece. Allora, a proposito invece, però devo tornare su questa vicenda, sì, dei sì, gay. Allora, a proposito di questa roba qua. Ma tu voglio... non vorresti, scusami, Mauro da Mantova, la presidenza della Confindustria? Sì, adesso avremo sicuramente un nostro candidato, ma non funziona così, non è come per le primarie, funziona in un altro modo e soprattutto non fotte un cazzo a nessuno, insomma, ma, diciamo la verità. Sono le primarie a nessuno, non esiste. No, un momento, ma non frega nulla a nessuno. Ti posso assicurare, a nessuno. Cioè, l'ultima cosa che frega le persone è chi sarà il prossimo presidente di Confindustria. Non frega nulla. Beh, interessa solo i giochi di potere. Però lascia perdere. Ho visto gente in autostrada che appunto ieri chiedeva informazioni su, sì, questo. Allora, sentite quello che dice un signore leghista che si chiama Centinaio. Signor Centinaio. No. che è, per carità, un signore molto distinto. Non è uno di quelli con... No, no, con la... peccato, perché se tu lo vedi, dice, è anche strano, perché sembra una brava persona, se lo vedi così, no? Ma sicuramente, no? Sarà una brava persona. Io l'ho incontrato tante volte. Però dice che, per esempio, in Australia... è della Lega, capito? Sì, in Australia, no, ma lascia perdere che è della Lega, perché no, devi sempre insultare quelli che sono della Lega? No, perché se tu lo vedi, dici, cazzo, è una brava persona, no? Vabbè, lo ma che... così. Sì, ma... poi ci parli e dici anche, beh, sì, è una persona normale, ci dice buongiorno, buonasera, è un essere umano, diciamo, no? Poi senti quello che dice e dici no, cazzo. No, ma io lascia perdere su altri argomenti. Su questa roba qui, in Australia si è sposato l'uomo con un cane. A parte che non è vero, perché sicuramente non si sarà sposato l'uomo col cane, questo lo sa solo lui. Qualcuno pensa, qualche pazzo pensa al matrimonio tra uomo e cane, ma non è, non in nessun paese del mondo un uomo può sposare un cane, dai. Chi vuole permettere a una coppia di omosessuali di poter adottare eventualmente un bambino? In futuro si potrebbe aprire qualsiasi cosa. Stiamo ricevendo, per esempio, valanghe di mail di fratello e sorella che vogliono sposarsi. In Australia nel 2013 c'è stato il matrimonio tra un essere umano e il proprio cane. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Cosa c'entra il matrimonio con un cane? Dai, su! Poi addirittura dice che se si parla di unioni civili, allora gli islamici vogliono la poligamia, allora qualcuno può pensare di legalizzare la poligamia. Una discussione che abbiamo già fatto. Caro Centinaio, non è così, non è così. Anche Sallusti lo dice, ma non è così. Nel momento in cui tu inizi a parlare di diritti civili, unioni civili, tu nella testa delle persone fai, metti un tarlo, io cittadino musulmano, che per me, per la mia mentalità, per la mia religione, la poligamia è una cosa giusta? E perché non deve essere riconosciuto il mio diritto all'unione civile tra me e le mie tre mogli, che magari sono anche d'accordo a sposare tre donne e un uomo? Oh, la Mussolini vuole che la resurrezione per un mese di lui, lui, nonno, il nonno. Quindi anche se resuscitasse tuo nonno, anche lui dovrebbe fare, fammi finire, dovrebbe fare i conti con la situazione. Sì, questa è un'altra considerazione. Ma se resuscita per un mese, deve fare i conti con la situazione emergenziale. Magari resuscitasse per un mese, per un mese. Qualcuno mi dice, ah, sei d'accordo con la Boldrini sulle adozioni? Vabbè, ma qual è il problema? Non ho nessun problema essere d'accordo con la Boldrini sulle adozioni. Questa è una mia posizione da sempre, certamente non la ritiro perché la Boldrini ha detto di essere favorevole alle adozioni gay. Sarei un deficiente se dicessi no, siccome lo dice la Boldrini. No, cioè la Boldrini dice tante stupidaggini. Secondo me in questo caso ha una posizione che poi è quella da sempre della sinistra, più o meno, perché poi i comunisti non la pensavano così, i veri comunisti. Ma comunque, lasciamo perdere. Nel momento in cui il partner muore e il figlio rimane solo, il partner abbia il dovere di occuparsi di questo figlio, il dovere. E allora mi sembra quasi naturale che questo dovere si traduca anche in diritto. Ma parliamo di furbetti del cartellino, i cosiddetti furbetti del cartellino. Caro Parenzo, ieri sono stato alla signora D'Urso a Domenica Live, grande battaglia con una signora, che era stata licenziata a Tolmezzo in Friuli Venezia Giulia, e dove un magistrato ha fatto un sacco di indagini per scoprire che questa signora non è stata per 8 ore al lavoro. L'ho attaccata, ma l'ho attaccata per le motivazioni. Cioè, per me uno pure che si assente per 2 ore non dà spiegazioni dovrebbe essere cacciato, ma non è questo il punto. È questione che io vorrei la stessa severità estesa a tutta Italia. Lì c'è un magistrato che ha fatto delle indagini pazzesche per scoprire che questa qua non è stata al lavoro per 8 ore, a meno da quello che dice lei, poi magari scopriamo che c'è altro. Però la spiegazione che ha dato questa signora, che si chiama tra l'altro Job di cognome, come lavoro, senza con la I normale in realtà, no, Job, però insomma ricorda un po' il modo, come si dice in inglese, il lavoro. Questa signora ha detto che, siccome era stressata, ha pasticciato con il tesserino del badge, capito? Cioè, siccome era a me questa cosa dello stress mi fa impazzire. Ma scusa, ma le ho detto, ma amica mia, ma anche se tu sei stressato, questo non è che ti impedisce di gestire il tuo strumento di lavoro, no? Per dire sono presente o sono assente, per fare la famosa strisciata. E dai. Io in quel momento, in quel periodo di stress carico lavorativo attribuitomi dalla direzione, a cui ho fatto presente più e più volte la situazione di criticità in cui mi trovavo, e aggiunto a problemi fisici di salute documentati da certificati, mi sono trovata in una situazione psicofisica di non completa attenzione nei momenti in cui mi allontanavo dal mio posto di lavoro. Cioè, capito uno perché diventa pazzo? Perché nel momento in cui mi allontanavo dal posto di lavoro ero in una situazione psicofisica che non controllavo le mie azioni. Cioè, questa qua era un po' sbarellata e allora non riusciva a fare la strisciata in maniera regolare. Ora, per carità, cioè, 8 ore, non è un assenteista, avrà mancato qualche ora, io non lo so, io caccerei tutti questi qua che non si presentano senza una valida giustificazione al lavoro, perché poi basta poco, no? Per fottere la pubblica amministrazione, per non fare una mazza. Ma voi lo sapete che in realtà il problema non sono questi piccoli pesci che vi hanno mostrato, no? Che vi hanno portato, compresi noi, che vi hanno messo lì a vedere, ecco, gli assenteisti, eccetera. Ma voi lo sapete, per esempio, l'altro giorno qualcuno mi ha mandato una statistica che già si conosce, che i forestali della Sicilia o della Calabria sono 4-5 volte di più i forestali del Canada. Del Canada! Eppure quelli, no, là, vabbè, eppure quelli là strisceranno sicuramente regolarmente, sono tutti regolari, non sgarrano di un millimetro, eppure sono molto di più rispetto al Canada, con un'estensione di foreste che è 20 sì, volte però, quella. Ma quello è il problema, non questi quattro coglioni che sono stressati e che non vanno a strisciare. Dai, questi li cacciassero pure. Ma non è che uno fa un'indagine per scoprire che questa qua è stata assente per 8 ore. E dai, su. Giuseppe, vi sto ascoltando dalla Thailandia. È l'una di notte. Vi rendete conto? Vi sto ascoltando live all'una di notte. In un resort. Ho appena finito di farmi fare un massaggio e una ragazza del luogo mi ha appena fatto il bidet. Traffico. La Zanzara. Allora, caro Parenzo, però io una telefonatina all'avvocato di quello con le mutande, quello di Sanremo, che è stato licenziato, quello che strisciava il proprio cartellino in mutande, la farei, perché ha raccontato una storia meravigliosa. Cioè che in mutande il suo assistito, quello di Sanremo licenziato, è andato, è riuscito a sventare una rapina. Cioè che nonostante le mutande... Anzi, forse grazie alle mutande, grazie alla prontezza, no? Al fatto di non essersi vestito, ha sventato una rapina. Una specie di eroe. Signor Zoboli si chiama questo avvocato. Zoboli, l'avvocato di quello licenziato con le mutande a Sanremo. Pronto? Avvocato Zoboli? Sì. Buonasera, qui Radio 24, la disturbo? Buonasera. Senta, volevo chiedere un paio di cose. Questa cosa della rapina che mi ha incuriosito molto, come è avvenuto questo fatto della rapina? Cioè, come è riuscito a sventare questa rapina il suo assistito? Ma a quanto mi ha raccontato, c'era sentito un mole frazione di un vetro del mercato comunale, sì, in casa, ed è sceso giù anche quella volta in mutande e è arrestato. Per cui non è che è sceso in mutande per timbrare il cartellino e nello stesso tempo ha sventato una rapina? No, no, ma però... cioè lui è sceso in mutande da casa per sventare una rapina? Eh sì, perché era lì, questo qui stava per scappare, allora lui è sceso e poi nel frattempo ha chiamato i carabinieri. Senta, lei come lo definirebbe il suo assistito? Un impiegato modello o no? Lo definirei un non assenteista, sì. non molto preciso nel rispetto formale delle regole. Ma c'è un tiro al bersaglio, una gogna secondo lei? Beh, un tiro al bersaglio non credo, certamente da parte della magistratura, certamente il fatto che queste mutande, mi rendo conto che suscita particolarmente e giustamente l'ironia delle persone. Cioè, perché lei per esempio lei per esempio non credo che sia mai andata a lavorare in mutande. Ma guardi, adesso al di là dell'ironia, che la capisco, sa, creda che l'ho fatta anch'io qualche volta, perché la situazione oggettivamente è molto particolare. Cioè, ma quando chi se l'è fatto timbrare? Perché si è fatto timbrare il cartellino dai parenti? Ma perché lì è tutta una situazione molto particolare, la dislocazione dell'ufficio vicino all'abitazione. Però lei dice non è un assenteista, è uno che ha fatto dei pasticci, diciamo. Cioè, l'assenteista è quello che non sta nelle ore di lavoro sul posto di lavoro. Se lui ha elevato sanzioni, ha presidiato i mercati, ha fatto tutte le attività. Anzi, forse ha fatto di più, si può dire che ha fatto di più. E in realtà qualche minuto di più forse l'ha anche fatto, ma questo ho capito poco. Benissimo, ma scusi, la questione della pedofilia, che lei, ho sentito in qualche intervista che lei ha fatto, che ha tirato fuori la vicenda della pedofilia con la riforma Madia, che vuol dire? Vuol dire che non capisco perché, se oggi fanno questa stretta forte alle 48 ore licenziare sull'assenteismo, cosa giustissima, perché non la fanno anche su altre cose gravi alla stessa maniera? Cioè tipo? Tipo la pedofilia, tipo la corruzione. No, però scusi, è evidente che se uno viene scoperto o accusato di pedofilia, c'è la sospensione immediata lo stesso, cioè, per cui non capisco. Perché esattamente come c'è, infatti lei così mi sta rispondendo come vorrei io, nel senso che questo significa che la riforma è perfettamente inutile. La sospensione immediata che lei dice per la pedofilia c'è esattamente, dipende dal datore di lavoro, e c'è in qualunque ambito, in qualunque materia. Oggi c'è l'obbligo di farla, sanzionato penalmente, solo per l'assenteismo. Vabbè, comunque la cosa curiosa è questa. Dunque lei dice, no, perché è importante questa cosa qua, l'esempio che lei ha fatto del sedere è importante. Lei dice, siccome non sapeva di essere ripreso, allora non c'è dolo in quella roba, giusto? Quando facevo l'università ci spiegavano che se lei mi spara, prende la gamba, mi portano sull'ambulanza, l'ambulanza ha un incidente e io muoio per motivo dell'incidente, lei non risponde di omicidio, perché lei sparandomi alla gamba non poteva ritenere che io poi sarei morto. Quello che voglio dire io è che lui, che ha fatto una grandissima fesseria, stronzata io aggiungo, però vabbè, è uguale, sì, grandissima stronzata, l'ha fatta non ponendosi neanche il fatto che potesse succedere che lo vedessero. Ma la storia della pasta là, che lui si faceva timbrare perché, com'è la storia? Cioè, moglie arrivava e diceva guarda che è pronto, dice guarda io finisco, per favore timbra tu, perché la timbratrice, come se l'avesse detto, vai nell'altra stanza e timbrami tutto io, il computer, cioè timbra tu la moglie, andavi in ufficio. Ma perché uno abita a 2 metri dall'ufficio pubblico? Com'è possibile una cosa del genere? Strana pure, perché lui è custode, dunque abita lì, dunque in realtà gestiva questo cartellino come voleva, diciamo la verità, un po' come voleva. Questo lo dice lei. No, ma non sto dicendo che commettendo. No, ma voglio dire, ma può apparire così, sicuramente. Il problema è, gestiva il cartellino come voleva, nel senso che diceva per favore timbra tu e non va bene, oppure non andava a lavorare, e questo è ancora più grave, se lei si è d'accordo. Dunque, andava a lavorare. A noi risulta di sì. Vabbè, avvocato, auguri. Grazie. Arrivederci. O magari è riuscito a sventare la rapina grazie alla, che ne so, al pacco, gli ha fatto vedere, che ne so, cioè, grazie? Può, che ne so, grazie al pacco, erano talmente, no, sorpresi dal fatto di vedere qualcuno con le mutande fuori, ma che ne so, ragazzi, è una follia. Il fatto stesso che uno va a fare una rapina in mutande già dovrebbe essere, cioè una rapina, scusa, che va a timbrare il cartellino in mutande, la rapina in mutande potrebbe essere un'idea, che va a timbrare il cartellino in mutande dovrebbe essere cacciato su 2 piedi, cioè solo per il fatto che va a timbrare il cartellino in mutande, dai su, cioè o sei un genio della, no, o sei un artista, cioè allora vuoi fare un'opera d'arte, oppure sei semplicemente uno, sì, cioè, anche se non ti vedono, no. Andrea, provincia di Alessandria, vai. Sì, ciao, solo una cosa, sono schifato da questo troiame di considerazioni, di stupore, di sconcerto che tutti dimostrano per le unioni gay, per l'adozione, quando proprio ho discusso oggi con una persona stimatissima, tra l'altro, che gli piace andare con i trans, praticamente lo succhia i trans e lo pianta i trans, e poi sì, mi fa il moralista che mi dice che assolutamente non è d'accordo, che è sacra la famiglia. Cioè, io veramente lo dico, e lo dico per esperienza. Scusi, personale, questa persona stimatissima, che mestiere fa? Avvocato. L'avvocato, vabbè, ma che c'entra però questa roba qua? Va benissimo, no, c'è un sacco di ipocrisia, no, naturalmente. No, ma tutti contro, guai contro i gay, contro queste adozioni, contro queste nuove famiglie, proprio questa sì, e poi sono... Scusi, lei dove si trova che sento un rumore pazzesco? Lo fanno piantare, lo piantano, lo succhiano. Sì, no, ma questo l'abbiamo capito, ma lei dove si trova che sento malissimo? Dove si trova? Sono in macchina, sto sentendo, sto rientrando da lui. No, amico mio, però si sente un rumore pazzesco, cioè o prende bene il telefono in mano, oppure un disastro qui. Sì, sì, non ti sento. Vabbè, noti un sacco di ipocrisia. Anch'io la noto un sacco di ipocrisia, per carità. Cioè, non c'è dubbio su questa roba qua. Davide, provincia di Roma. Sì, buonasera. Sì, dimmi. No, io noto ipocrisia però anche in altre cose. Per esempio, si è scatenata su questi famosi social la vicenda di Italo. La vicenda di Italo. Cioè, Italo ha fatto uno sconto a questi del Family Day che vanno a manifestare, che io chiamo Anti-Frocio Day. Una manifestazione ovviamente legittima, cioè non è che una manifestazione anticostituzionale, una manifestazione illegale, è una manifestazione promossa che sicuramente sarà pacifica, non c'è dubbio, rispetto anche a altre manifestazioni che io combatto per le cose che dicono, non per il fatto che ci sia una manifestazione. Dopodiché qualcuno dice che Italo parteggia per questi qua, ma di che stiamo parlando? Cioè, Italo, cioè, fa gli sconti, ha trovato l'occasione di un po' di persone che andranno a Roma per fare degli sconti collettivi. Qual è il punto? Cioè, lo farebbe per qualsiasi altra manifestazione? Beh, immagino, no? Cioè, allora tutti all'attacco, no? Le associazioni gay, ho letto anche Costantino della Gherardesca che non vuole più viaggiare in Italo, ma chi se ne frega? Questo è proprio il fascismo gay, questo è fascismo. La Zanzara. Pensate agli agenti di commercio quando alle 6:30, finalmente, con le palle sudate, le ascelle che puzzano, la forfora sulla giacca, le scarpe sporche di fango, salgono in automobile, accendono la macchina, accendono la radio, mettono la Zanzara, fanno una bella scoreggia silenziosa e partono verso casa, pensando che in fin dei conti la vita non fa poi così schifo. Allora ragazzi, quasi quasi ci rimaneva secco ieri sera Paolo Cirino Pomicino quando durante il programma di Parenzo fuori onda sulla 7 litiga con Di Pietro a proposito sempre dell'annosa vicenda di Mani Pulite. Ovviamente Di Pietro e Pomicino nel 92 quando scoppiò Mani Pulite furono nemici giurati, più o meno hanno continuato a beccarsi per più di 20 anni. Ieri sera un po' vicino a un certo punto ha sbroccato, non ce l'ha fatto più, sentite. Io adesso faccio una sfida in questa sala. Attenzione. Vi chiedo di fare una verifica reddituale tra Di Pietro e il sottoscritto sul piano reddituale e patrimoniale. Per capire chi ha rubato e se ha rubato. Ma che c'entra? Chi ha rubato e se ha rubato. La tua dichiarazione reddituale, la tua dichiarazione patrimoniale con la mia. Ma che vuol dire? Delle mie figlie e della madre delle loro figlie. Ma non c'entra niente. Ma perché sei arrabbiato? Questo mastralzone, ma che dico? No, vabbè, mastralzone, ha detto che in realtà la crescita degli anni Ottanta del sistema politico democratico era legata al fatto delle tangenti. È una persona ignorante e malafede. Ma non si arrabbia. E allora, voglio sapere, io lo sfido a dimostrare la tua dichiarazione patrimoniale con la mia dichiarazione patrimoniale. Ma che c'è? E vediamo esattamente chi ha rubato. Però, Pomicino. Vediamo chi ha rubato. No, ma Pomicino, chi ha rubato. Pomicino, lei... Vediamo chi ha rubato. Ma sta dicendo che ha rubato, scusi. Vediamo chi ha rubato. Gli io a lui gli lancio un abbraccio, perché voglio dire, lo capisco, dopo tutto a un certo punto quando uno gli erodi, io non voglio essere capito, voglio fare la verifica, non voglio essere capito, sono io che in genere metto sul lettino e parlo con i miei pazienti, da medico. O mi vieni a trovare e ti metti sul lettino e ne parliamo. Però... la verifica dei redditi, chi si è arricchito di più durante questi ultimi anni, Di Pietro oppure Pomicino? Bah, cioè praticamente Pomicino ha detto che Di Pietro si è arricchito con grazie a Mani Pulite, No, ha detto si è arricchito facendo politica. Sì, facendo politica, sì, sì, certo. No, in realtà ha detto vediamo chi ha rubato all'inizio, ha detto vediamo chi ha rubato. Sì, ma è una cosa, un'accusa folle, povera. Ma io pensavo veramente stessi male, c'è tutto, mi sono preoccupato però. Cioè, davvero, perché secondo era... me ha messo diversi bypass, signor Pomicino. No, per quello, mi sto preoccupando perché non c'era neanche un medico, a parte lui che è medico. Sì. Ma non c'erano altri medici in Italia, in studio, quindi... No, poverino. Oh, intanto è tornato il nostro amico, beh, in questa settimana non poteva mancare, il nostro amico Fanzaga, Livio Fanzaga. È una resa, cioè queste forme sono una resa, cioè come dire, vabbè, c'ho la malattia, me la tengo, insomma, no, c'ho la malattia, guarisci, scusa. Sta parlando di omosessuale e di gay, cioè una malattia, no, si può guarire, si deve guarire da questa malattia, uno non se la può tenere. Signor Livio Fanzaga, Radio Maria, il grande protagonista di Radio Maria, lo speaker principale di Radio Maria, l'anima di Radio Maria, dice che gli omosessuali sono malati. E le unioni gay, comunque queste forme inventate dagli uomini che chiamano diritti quelli che sono desideri confusi della carne. I desideri confusi della carne. Poi io vorrei capire cosa ne sa Don Livio Fanzaga dei desideri della carne. In teoria non dovrebbe conoscere i desideri della carne. Come fa a dire che sono confusi? Non dovrebbe conoscere, signor Livio questo Fanzaga. Questo non vuol dire. Ho capito, dire ma come fa? Uno può parlare di. Solo chi è sposato. No! Ma scusa, ma la chiesa che parla di famiglia ti pare normale a te? Che si mette a discettare di famiglia? La chiesa parla di famiglia? È un controsenso. Cioè, è un assoluto controsenso. Ma no, sarebbe come dire. Cioè, i cardinali che parlano di famiglia, no? Cosa deve essere una famiglia, quella no, giusta, ma quella sbagliata. Sarebbe come dire che può parlare di sesso soltanto Rocco Siffredi. No, Rocco Siffredi no, però no? Deve averlo un po' fatto prima, deve averlo un po' praticato. Devi sapere di cosa si parla. Un minimo, no? Vabbè, dai, Marco da Lecce, Marco. Sì. Dimmi. Pronto, buonasera. Mi scusi, allora, io solo questo. Siete delle persone simpaticissime, sia lei che Parenzo, e sicuramente molto colte. Però mi dispiace dirvelo, siete alcune volte scurrili nel trattare poi argomenti e parolacce in orari che protetti, che sì, dovrebbero essere protetti dal argomento vecchio, pagine. Questo qua, caro amico, argomento vecchio, vecchissimo. Oltretutto, allora, per quanto riguarda ovviamente la questione degli omosessuali e delle famiglie, sì. Le dico questo, sono argomenti che vanno trattati nelle sedi opportune. In che senso? Non se ne può parlare, non se ne può parlare alla radio? Ma voi non siete qualificati a trattare questo argomento. No, non dobbiamo voglio essere tacciato da ipocrita, sì? Però non soltanto la nostra Costituzione sancisce sì il matrimonio da chi deve essere i soggetti, cioè uomo e donna, lei dice uomo e donna, ma al di là del al di là di questo, sì, è la natura che lo stabilisce, è la natura che cosa stabilisce, cosa stabilisce i rapporti omosessuali, è libero di farlo, sì. Se la donna vuole avere degli amplessi con una sua simile dello sì stesso sesso, sì, lo può fare, sì, lo può fare tranquillamente, nessuno dice nulla. E però? Ma non andiamo contro natura. E dunque che significa non andiamo contro natura, caro Marco? Quello è una fogna quello che state dicendo. È una fogna, d'accordo, che stiamo dicendo cosa? Per esempio, mi faccio sì un esempio. Perché gli omosessuali, sì, è vero, sì, sono malati. Sono malati, e dovrebbero, io dico una cosa, dovrebbero mi richiamate per favore questo signore qua, che poi tra l'altro dice che noi diciamo, no, sostiene, noi diciamo le parolacce, cioè noi diciamo le parole, siete scurrili, Francesco, provincia di Salerno, e poi ha detto che sono malati, roba incredibile. Francesco, dai. Sì, buonasera. Vai, buonasera, dimmi, a tutti. Dimmi. Allora, io diciamo la penso più o meno come il signore che ha parlato prima, soltanto che ha detto delle nefandezze, perché nell'omosessuale non c'è nessuna malattia. Ogni persona, ogni individuo è libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Anzi, aggiungerei che le coppie, diciamo di fatto, devono essere equiparate alle coppie tradizionali per quanto riguarda i diritti e tutto ciò che concerne la legge. Io la penso così, ma lei ha tutto il diritto di pensarla diversamente. Un attimo, ma da qui ad adottare anche i bambini, su questo io metterei un veto, perché la natura ha fatto sì che per creare la vita ci vuole... Sì, ma guardi che la vita non finirà con le adozioni, con i matrimoni gay, se mai verranno approvati in Italia, ho molti dubbi. La vita non finirà, continuerà tranquillamente come è successo in altri paesi. La vita continuerà, scorrerà lo stesso, lei tradirà sua moglie, andrà con i transessuali, si sposerà 2 o 3 volte, farà tutte quelle cose che, no, che sono tutte in contraddizione con l'idea di famiglia tradizionale, eccetera, eccetera. Lei farà tutto quello che le verrà in mente di fare e non cambierà nulla, non ci sarà un contagio di omosessuali in tutto il paese. In Spagna non è successo nulla di tutto ciò, chiaro Francesco? Sono d'accordo, l'unica cosa che vorrei aggiungere è mettiamoci nei panni di chi non ha voce, in questo caso chi non ha voce, chi sarebbero i bambini da adottare. Mettiamo che una coppia di fatto vuole adottare un bambino appena nato che non ha possibilità di... Non si preoccupi, in Italia non avverrà mai. Angelo da Vercelli. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi Angelo, dimmi. Niente, io ho 28 anni, premetto che non sono né credente e sono eterosessuale, ho tanti amici gay, tante amiche lesbiche, però sono contro innanzitutto le manifestazioni come può essere il Gay Pride, perché secondo me è un ostentare in modo esagerato l'orgoglio, perché potremmo fare anche noi la festa dell'orgoglio etero andando in giro tutti ostentando membri giganti. È una manifestazione però, come un'altra, lasci perdere i membri giganti, è una manifestazione come un'altra, diciamo stronzate, su, dai, io non vado alle manifestazioni, non mi piace andare alle manifestazioni. Non me ne frega assolutamente nulla, non vado sui carri né vado a manifestare per il lavoro o per altre cose, non me ne può fregare di meno. Dopodiché è una manifestazione come un'altra. Qual è il problema del Gay Pride? Chi fa? Qual è il danno? Qual è il danno? La gente con le piume, con 4-5 persone con i culi di fuori? Vediamo tante nefandezze in giro. Assolutamente non c'è nessun problema, no? Io sono d'accordo con quello che dice Cardina Bagnasco sul fatto Come si fa a essere d'accordo con Cardina Bagnasco? Beh, già è una contraddizione in termini. Io sono d'accordo solo con quello che dice, nel senso quando dice che la famiglia, che avere i figli non è un diritto. Io sono Ma quello è chiaro che non è un diritto. Infatti, se lo dice Bagnasco, lo dice pro domo sua, cioè non è che lo dice. Certo che non è un diritto a tutti i costi, non è che per forza bisogna avere i figli, non è che si può rapire qualcuno per avere un figlio, no? Fermi là. La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Non capisci un cazzo, i Caraibi sono pieni di resort all inclusive che specificatamente dicono adults only. Ce ne sono ad Antigua, ad Aruba, Cancun, in Giamaica, Punta Cana, il Messico è pieno. Dire cazzate, dai. Questione dei ristoranti che non vogliono i bambini. State sbagliando tutto. È l'opposto. Sono i bambini che odiano profondamente i ristoranti e distruggerebbero qualsiasi cosa pur di non entrarci, me lo ricordo io quando ero piccolo. Quindi i ristoratori che non ci vogliono i bambini in realtà gli fanno un favore, perché fanno in modo che i genitori o non se li portino affatto o restino con loro a casa, perché i bambini odiano i ristoranti. Alziamo l'asticella. Io ho vietato l'ingresso a tutti i musulmani nel mio ristorante, mettendo carne di maiale ovunque, strutto, grasso, pancetta, lardo. Viva Donald Trump for president! Sono contrarissimo al cartello su divieti ai bambini. Allora facciamo così a questo punto, mettiamo un cartello vietato ai froci, soltanto che se lo scriviamo la polizia magari viene là e dice dovete togliere questo cartello perché è omofobo, e quello può permettersi di mettere un cartello vietato l'ingresso ai bambini? Ma dove cazzo, in che mondo siamo arrivati? Allora, cosa succede nel Movimento 5 Stelle, caro Parenzo? Grillo ha attaccato la RAI sul blog dicendo che è una televisione fascista perché certe notizie non passano, insomma una vecchia polemica di Grillo nei confronti della televisione pubblica, una polemica che Grillo mette in campo da quando ha creato il Movimento 5 Stelle. I canali di informazione, prima se la pigliava con tutti, non solo con la RAI, ha detto che è una televisione fascista perché non ha dato le notizie su alcune cose che riguardano il Partito Democratico, il sindaco di Brescello, eccetera eccetera. Però la cosa curiosa è che il consigliere di amministrazione RAI in quota 5 Stelle, chiamiamola così, signor Freccero, ha proposto lo stesso Grillo per una prima serata alla RAI. Cioè ha detto è tempo che sì, torni. No, le due cose non sono in contraddizione. Beh, insomma, in quello realtà, dice la RAI è una televisione fascista e quello lo propone per la prima serata. Ho capito. No, ma le due cose non sono in sì, cioè non c'è. Ma no, ma è una follia, no? Ma di che stiamo parlando? Freccero dice una cosa a favore del, cioè dice, siccome Freccero bada agli ascolti e alla qualità. Ho capito, ma gli ascolti di che? Ma Grillo è il capo di un movimento politico, non può fare nessuna trasmissione alla RAI, dai, su. Adesso la novità del weekend è che Grillo si fa di lato questa sì, ma ho capito, ma anche se uno si fa di lato, non è che poi va alla RAI mentre esiste un movimento sì, che vabbè, si chiama 5 questo, Stelle, dai, questo su. Questo d'accordo, questo lo c'è, però perché se uno deve e pensare, basta, dai, lascia stare che è il servizio pubblico. Se io fossi un imprenditore, un'azienda privata, no, ma chi è che non vuole Grillo? Chi è che non vuole Grillo a fare uno spettacolo? No, tutti vorrebbero Grillo. Esatto, ma esatto, ma dire, quindi, è come dire voglio, che ne so, Dio, cioè Dio, no, che Dio vabbè, si manifesti. Vabbè, ho capito, comunque, sì, d'accordo, quindi, però quel Freccero fa un discorso da uomo dell'azienda, cioè, ma che uomo dell'azienda fa un discorso che non è realizzabile, una follia, cioè. Però ci sta che uno dica vorrei Grillo in prima serata. Che è tempo che torni alla RAI, quello non può tornare il capo di un movimento politico, anche adesso, se no, ma anche se si fosse messo di là, ma che dici non fa più, ma ancora credi a questa buffonata? No, ma io sono molto più cinico in realtà, capisco il discorso di Freccero, da un punto di vista dell'azienda ha perfettamente ragione. Ma che vuol dire comico, dell'azienda? È come dire, basta, ma non può, è fuori da. Ma non è questo il tema, ma certo che non può, lui adesso ha detto mi faccio di lato. Ma che vuol dire? Uno può dire, è come Berlusconi che dice mi faccio di lato e dopodiché sì, non è che gli danno la prima serata alla RAI. Le scatole di fare questa cosa. Lascia vabbè, il cartolino e torna a fare, questa è la vera ragione, il suo spettacolo teatrale. Sì, ma tant'è ti pare curioso che quello dice che quello no, dice. No, ma ti dico, tant'è che lui non è andato ad Arezzo, dove ha lasciato i suoi tre ragazzi da soli con 100-120 persone, non so quante la cose. La protesta contro le banche, sì. Da solo. Perché ha detto, ma scusi, ma perché devo andare a fare lì uno spettacolo gratis quando tra 10 giorni la gente paga il biglietto per vedermi? E allora perché devo andare ad Arezzo a fare un anticipo dello spettacolo? Cioè lui ormai si è veramente, secondo me, stancato della politica. Vabbè, ma questo qua, ma questo stai facendo no, dei discorsi quindi banali che ci stanno. Cioè ci no, sta. Non è banale, ma ho capito, ma è scontato, lo sappiamo. Beh, sarà anche scontato per quello che c'è stato il weekend. Quindi Freccero invece fa un discorso che farei anch'io se avessi. Ma fare anch'io di cosa? Grillo non può. Ma io lo dico non perché abbia qualcosa contro Grillo. Chi è se ne frega impossibile. Che può, non può. Ma tu dici può e non può, ma chi se ne frega? Vabbè, chi se ne frega? Funziona o non funziona deve essere la cosa. Ma che vuol dire? Ma non è possibile. Ha creato negli ultimi anni un movimento politico. Non è fa uno spettacolo in prima serata alla RAI, ma, dai. Fa ascolti? Sì, sì, ma non dire cazzate, dai, su Giuseppe De Chieti, dai, non dire minchiate, ma che giustissimo De Chieti, dai, Giuseppe De Chieti, non dire stupidaggini. Sono assolutamente d'accordo. Vabbè, sei d'accordo, ma tanto è impossibile, non si farà, ma che vuol dire, Giuseppe De Chieti? È chiaro che fa ascolti, Grillo. Ma sì, ma che vuol dire? Ma è il capo di un movimento politico, non può. E così in più se ne sta zitto e non dice che non gli danno spazio, magnifico. Giuseppe De Chieti, ah, io fossi nel PD, in quota PD, nel CDA, sosterrei il ritorno di Grillo alla RAI. Lo lascerei fare a Freccero che è stato nominato dai in chiave anti-Grillo, dici. In chiave anti-Grillo, io subito sosterrei, anche se fossi Renzi, subito chiamerei, prenderei il telefono, chiamerei i miei, non so neanche come si chiamano, quelli che sono in CDA. Campo dall'Orto, no, ma direttamente Campo dall'Orto, tanto lo controlla. Sì, o chiamerei i CDA, come si chiamano, quelli che sono in CDA. Vabbè. Subito. Giuseppe De Chieti, vai. No, Rai 1 il sabato. Dai, il problema non si pone, questa è la realtà, è Giuseppe De Chieti. Poi quanto vendi di vai, sì. Uè, Cruciani. Sì, dimmi Giuseppe, questo ma è quel cretino che. Ma il pappagallo parlante. Sì. Quando è che lo licenzia? Chi è? Comanda a fanculo. Il solito cretino da Chieti, sì, il cretino da Chieti. Scusami, ma Gesù Cristo, dov'eri tu mentre Gesù Cristo distribuiva il cervello? Quel giorno lì. Cocainomane. Stia zitto. Cocainomane. No, per capire, il giorno in cui Gesù Cristo, il giorno in cui Gesù ha distribuito il cervello alla gente, dov'eri tu? Lei qua sono sciacquino, questa trasmissione, perché io ho chiamato per dare sì. ragione a Pomicino, la sì. trasmissione dove lei fa... Non ci interessa il fatto che tu dai ragione a Pomicino, non ce ne frega nulla Giuseppe, nulla, nulla, non ce ne può fregare di meno che tu dai ragione a Pomicino, contro Di Pietro, non me ne può fregare di meno. Certo, io sto a un comune che certo. confina con il comune di Montenero di Bisaccia, e sai come lo considerano a quel signore, sì. stavo per dir di merda? Sì. Come lo consiglio? Che ha rovinato l'Italia? Sì. Un approfittatore, si è arricchito. Vabbè, maestro, lascia perdere Di Pietro, chi se ne frega. Cosa hai chiamato a fare tu, caro, oltre che per insultare Parenzo come al solito, Giuseppe? No, io non ho insultato nessuno, è lui che ha cominciato. Ma no, hai cominciato tu dicendo che sei hai detto un cocainomane, scusami, abbi pazienza. Cioè... No. Io l'ho detto dopo che lui ha insultato a me. No, ma io mi permetto di chiedere, ma giro la domanda anche a Cruciani, magari lui ha una risposta. Sì. Dov'era questo ascoltatore il giorno in cui Gesù distribuiva il cervello? No, io dico così, come fa lei a stare a fare sì. trasmissioni sì. alla sì. 7 e a Confindustria? Chi è che lo raccomanda? Quale comunista? Quale comunista? Quale comunista? No, io sono stato raccomandato all'epoca da un signore che si chiamava Berlinguer. Certo, capito? No, ma certo, no, avevo 4 anni io quando c'era certo. Vabbè, Giuseppe, che vuoi? Arrivederci. Che vuoi? Sai che volevo dire, Cruciani? Che volevi dire? Pomicino sì. ha perfettamente ragione. Ho trovato qua per terra una formica, forse il suo cervello. Aspetta un attimo. Aspetta che ho trovato il cervello dell'ascoltatore. Aspetta. Aspetta, c'hai aspetta. L'hai trovata? Mi porta... Per corte signora, mi porta lei una lente. Solo il pappagallo. Aspetta, che l'anno. Mi porta. Abbiamo trovato, risolto. Ho trovato il cervello. Qualche una lente. E anche delle pinzette, se signora, vuole, grazie. La aspetta, raccomando, come pappagallo nano. Sì, aspetta, che mi sto chinando perché ho trovato il suo cervello. Ci vogliono delle pinzette. Ma vedi, il suo. È un microscopio. Il mio scusi. Cervello è piccolo, ma lei non ce l'ha proprio. Lei prima se ne va dall'Italia, è meglio essere. Dall'Italia addirittura, dall'Italia sì, non solo dalla zanzara, dall'Italia dall'Italia. Ma perché dovrebbe è andare una rovina. Perché dovrebbe andare via dall'Italia, scusa Giuseppe? Ma perché lui non è un italiano. Non è italiano, non è... No, che cos'è? No, no. Che cos'è? Lui è uno che difende solo i migranti, i musulmani. Sì. Sì. I froci, gli ebrei, i froci, non so, perché i froci italiani non sono, mettiamo, seguendo anche il suo ragionamento, i froci non sono italiani secondo lei? No, perché i froci non sono italiani allora? Sì. No, io non ho detto che non sono beh, italiani. Cioè, deve andare via dall'Italia perché difende i froci. Io ho notato nella sua trasmissione sì. lo sciacquino che c'è a fianco sì. difende a spada tratta i froci. Non lo no, veramente li difendo più io di quattro per dire, a me no? mi sorge il dubbio che viene sponsorizzato dalla lobby dei froci. Non ma so, no, io. Ma guardi che al limite qualcuno può fare l'accusa a me, David è molto più, come dire, distante dal mondo omosessuale di quanto non lo sia io, amico. C'è quel signore là, quella specie di signore che c'ha anche da sciacquino. Sì, da sciacquino, sì, certo. Lui se perde chi lo raccomanda. Sì, che succede? Lui è finito, dovrà andare a zappare. Aspetta. Che hai trovato? Ha tirato no, guarda, ha tirato guarda, il cervello. Ho buttato via il cervello. Guardi, adesso siamo a piatto proprio. Guardi. Cioè, le suggerisco una cosa. Dimmi. Allora, seguirò pedissequamente il suo consiglio. Sì, grazie. Mo che ristrutturate, perché non gli preparate un bell'ufficio? Ma ristrutturiamo cosa? Però. Che ristrutturiamo? Scusa, cosa lei è potentissimo, tutti i suoi agganci che c'hanno. Ma io non sono affatto potente, non stiamo ristrutturando una beneamata mazza. No, ve lo siete fatti ristrutturare ogni anno, ve lo fate ristrutturare, vi siete fatti oltre ad alzare la paga. Ma cosa ristrutturiamo? Cosa ristrutturiamo? Gli uffici, dove trasmettete? Ma non stiamo ristrutturando. Un bel CES, e dove ci mettete lo sciacquino là? Ma lo sciacquino, vabbè, non c'è bisogno, ci sono i cessi anche senza bisogno di essere della ristrutturazione. Lui può stare solo al cesso. Può stare solo al cesso. Ristrutturare ha ragione, forse bisogna ristrutturare. In che senso bisogna ristrutturare? No, non so, ci sarà qualcosa da ristrutturare, lì ha solo 24 ore. C'è sempre qualcosa da ristrutturare. Andrea, provincia di Venezia, vai Giuseppe, eclissati con insieme allo sciacquino di Parenzo, eclissati. Andrea, provincia di Venezia, vai. Ciao Cruciani, buongiorno, buonasera. Io volevo solo fare una precisazione. A me va benissimo anche la poligamia, Bravo, mamma ragazzi, ma la poligamia, ma che vuol dire la poligamia? Dai, su, la poligamia significa sposare che un uomo, almeno così come è conosciuto adesso, che un uomo può sposarsi in contemporanea con tante donne, cosa che ovviamente... Io infatti volevo dire, perché non una donna che sposa, ma sì, in contemporanea, ma va bene, ma non verrà introdotta mai, cioè mai, mai. Ma, okay. Questo l'ho capito, sono d'accordo con ma te. Ma perché vuoi? Perché, perché ti piacerebbe? Ma perché nei paesi islamici, che sono ovviamente contro le donne e sono, hanno l'ossessione, un'ossessione contro le donne, ovviamente la poligamia è prevista solo per l'uomo e non per la donna. Sì, ma per paradosso a me non me ne frega assolutamente niente, ma potrei essere assolutamente d'accordo anche con la poligamia, salvo il fatto che deve essere parificata nei due sensi. Va bene, qui. Silvia da Pistoia. Molto Cruciani. Dimmi Silvia, dimmi. Allora, ascolta, io sono ero consigliere comunale fino a 2 anni fa nella mia città. Sì. E ho redatto il regolamento sulla detenzione degli animali. Sì. A proposito, leggo che a Rimini una famiglia ha fatto affiggere in moltissime parti della città un manifesto, un annuncio funebre, sai quelli che ogni tanto si vedono nei comuni. Che recita così: la famiglia Paesani annuncia la scomparsa del loro caro Dante. Eri un animale da tutti considerato tale, per noi eri una persona, riposa in pace, per noi eri una persona. Poi c'è la foto di questo cane con un casco. Ora, per carità, va tutto bene e chi se ne frega, alla fine molti si sono arrabbiati perché l'hanno presa come un'offesa nei confronti dei defunti veri, dico io, cioè dei defunti veri. Però se uno vuole spendere i soldi in questo modo, chi se ne frega? Certo, la follia umana. Anche quelli che si arrabbiano, ma chi si arrabbia? Vabbè, Silvia, allora? Ma loro. Comunque, ascolta, Cruciani, c'è un problema della cacca. Cioè? Allora, la cacca dei cani... Questo è come il traffico, però, amica, è come il traffico, il problema delle città è la cacca, non mi pare la cacca. La cacca, no, perché c'è una distinzione, non esiste solo la cacca dei cani a giro. Noi abbiamo un parco bellissimo, sì, dove nei cespugli, vicino al fiume Sciattole, sì, però andiamo al solito. Qual è, come, di cacca umana, che c'entra? Cacca umana. A Pistoia stai dicendo che il problema è quello del... Non a Pistoia, io abito a Montecatini, ma al di là di questo... Vabbè, ma qual è, perché ci stai dicendo questo? Non hai idea di quanta gente fa la cacca in giro. Ma dove? In giro, ovunque. Vabbè, però non la puoi riconoscere perché non hai un cane. Ma è un problema, secondo te? Io ho sempre avuto... È un problema perché i cani, se sono liberi, ne sono attratti e la mangiano. E allora? Allora io propongo il sacchettino agli umani anche. Che vadano a giro con un sacchettino per raccogliere la loro cacca. Se i cani la mangiano, quelle degli umani, mica si sentono male. Ma a me mi fa schifo, che poi il mio cane mi dà anche bacini. Forse si capisce perché tu sei ex consigliera comunale, però. Io sono stata... Appunto, sei... ma quello però si capisce perché non sei stata rieletta, perché non sei più in comune, amica mia. Perché se ti preoccupi della cacca dei cani, per la cacca degli umani che poi danneggia i cani che poi ti leccano in faccia. Beh, amica mia, non ci siamo. È veramente una cosa incivile. Cioè, te cacca a giro è un'espressione fantastica. Io non so se è veramente così diffusa la defecazio in pubblico, la defecazio così. Certo, qualcuno. I rom, magari in qualche campo rom, cagano liberamente, non lo so. Oppure, ma perché devi dire i rom? Ma nei campi rom, dico, magari invece hanno dei gabinetti meravigliosi, non lo so. Insomma, la gente che vive in giro, dico, può darsi pure, no, che magari anche quell'ascoltatore che ha chiamato prima, no? Può essere. Quello è tipico. Ah, ragazzi miei, Matteo Salvini come ogni lunedì con noi, buonasera. Buonasera da quel di Bruxelles. Ti devo dire una cosa su Montecatini. Che devi dire su Montecatini? Sono stato diverse volte, non ho visto cacche umane. Nemmeno io, devo dire la verità. Però c'è una prostituzione che penso sia a livelli mondiali. Beh, a Montecatini sì. Sono prostitute sostanzialmente ovunque. Sì, sì. Ma questo è il miglior esempio per regolamentare e tassare la prostituzione. Lo so, ma un sacco di soldi a Montecatini. Che devi fare? Tu però non puoi essere, però scusa, mi metto su questo, tu sei a favore della prostituzione, della legalizzazione della prostituzione questo anch'io, come sai, abbiamo fatto delle cose insieme e tutto quello che vuoi. Però nello stesso tempo con quelli gli organizzatori del Family Day, eccetera, eccetera, che in realtà considerano la prostituzione come la considera Parenzo, cioè una cosa da miserabili, cioè una cosa da eliminare. Questo è il punto fondamentale. C'è una contraddizione, o no? Ma guarda, io rispetto profondamente coloro che saranno in piazza sabato prossimo a Roma, sono famiglie, vengono. Ma tu ci andrai? Tu ci vai? Non ci sono, no, io personalmente no. Io personalmente no, per evitare di mettere il cappello su iniziative di altri, perché sono divorziato. Comunque, quindi. Cioè, ci sarebbe una contraddizione. Secondo te i divorziati non dovrebbero partecipare, secondo te? No, ma per carità, nella vita ti può andare bene e ti può andare male. Penso che qualunque coppia che ci stia ascoltando, che si approccia al matrimonio, pensa e lo faccia perché sia per tutta la vita. Poi le vicende della vita possono essere più o meno fortunate. Però una cosa di cui sono convinto è che continuerò fino a che campo a essere contrario alle adozioni gay, agli utenti in affitto e a quello. No, ma è quello d'accordo. Però voglio capire una cosa. Dunque tu non andrai alla manifestazione e non la sostieni, o sì? Cioè la Lega è dalla parte di quelli là, no, del femminile? La sostengo culturalmente, moralmente. Io sarò personalmente ad Aosta perché c'è la festa patronale di Sant'Orso, che è uno degli ultimi mercati veramente artigianali che c'è in quella splendida festa città, di quindi sarò altrove. Vabbè, sei dall'altra parte. Moralmente sarò con chi è in piazza. Non ho capito, che c'entra il fatto che sei divorziato col fatto che non ci vai? Cioè, beh, tu hai detto non ci vado perché sono divorziato. No, non voglio mettere il cappello su iniziative altrui, altrimenti qualcuno comincerebbe a dire: ah, ma come fa Salvini? No, ma che c'entra che sia? Ah, ho capito. I diritti dei bimbi. Io difendo i diritti dei bimbi, almeno quando nascono, almeno nel giorno della nascita, a prescindere da come andranno le vicende fra mamma e papà, ad avere una mamma donna e un papà uomo. Di questo nessuno mi convincerà del contrario, perché due mamme o due papà non vanno bene. Uno fa il papà e uno fa la mamma. E quando non, succede? E quando me succede? Non sono il futuro. E quando succede invece? Ma per carità, io rispetto le scelte che di che vogliamo fare? Vogliamo strappare i bambini? Del mio stato. Vogliamo strappare il mio voto? No, ma guarda, se io dovessi fare una legge con l'urgenza di cui parla la Boldrini, bisogna fare presto. Ci sono in Italia 40.000 minori fermi nelle comunità e nelle case famiglia. Rendiamo più veloci le adozioni per le coppie etero. Sì, no, questo ne abbiamo già parlato. Senti, no, però sai che su questo, Salvini. No, però a proposito di famiglia tradizionale, tu per esempio non sei un esempio, cioè non sei un esempio per la famiglia tradizionale, o sì? Non sono da additare come modello, sicuramente. Cioè una moglie, un divorziato, probabilmente altri ne farò in futuro. Una compagna, due figli, una con una. Divorziato come altri ascoltatori. No, ma sì, amica, è un delitto, Però cioè... Sono orgoglioso del fatto che comunque i miei due bimbi abbiano la loro mamma e il loro papà. Senti, ma la regione... Ma questo ha ragione, Salvini. Cioè, in che senso? Io mi trovo nella sua medesima situazione, per cui anch'io ho fatto una figlia con la mia prima moglie, poi ho un altro figlio e un altro in arrivo adesso con la mia compagna, come ormai tutti sanno. Cioè tu dici, si può essere divorziata, eccetera, eccetera. No, incoerente, io parlo di politica con lui, non di cose sentimentali, è un leader politico, in questo caso, mi dispiace dirlo, coerente, perché a differenza di tanti paraculi divorziati con 50 famiglie che saranno lì in piazza a fare i politici del Family Day, lui almeno dice, questo è il punto interessante, lui almeno dice, siccome ho una famiglia che non rispecchia quella del Family Day o di quella roba lì, non ci vado. Su questo è più coerente lui di tanti baciapile che andranno invece in piazza e poi votano. Ma io per questo io l'ho chiesto, infatti, perché... No, mi sono arrivato qua, purtroppo. Perché purtroppo? Perché per te uno che è della Lega, no, deve dire, guarda, per forza una cazzata. Ti posso dire che sono anche, ad esempio, quando Papa Francesco parla delle comunioni dei divorziati, io sono contrario, perché se sei cattolico e hai sbagliato, te ne prendi la tua responsabilità, quindi non vado a cambiare il corso della storia per le mie volontà, i miei capricci. Senti una cosa, ma tu, la presenza di uno come Elton John, che è il simbolo del mondo dell'utero in affitto a Sanremo, pensi che sia un errore? Perché pare che parlerà pure di unioni gay, eccetera, eccetera. Ti credo. No, ma guarda, Elton John è un grandissimo cantante, mi piace un sacco. Se sarà Sanremo per cantare, forse è la volta che torno a guardarlo, perché non è esattamente il mio programma musicale di riferimento. Se arriverà a fare l'ennesimo pippone pagato dal denaro pubblico, come ho visto l'altra sera, ieri sera c'erano Fazio e Lerner, a che tempo che fa veramente da cadere le palle, ancora con Lerner che equiparava lo sterminio degli ebrei compiuto nel nazismo alle vicende dei migranti di oggi, lo paghiamo noi, perché quella è una trasmissione sul servizio pubblico, quindi se Elton John arriva e canta giù il cappello, se Elton John arriva e ci fa il suo pippone su sui 7 papà e gli 8 nonni, e allora se ne stia a casa. Ma magari viene col figlio sul palco di Sanremo, pensa, col figlio dell'utero in affitto, il figlio dell'utero. No, ti dovrebbe fare schifo se pensi che l'utero in affitto, cioè l'utero in affitto per te è una porcheria, cioè fare un figlio in quel modo in cui ha fatto Elton John è una cosa schifosa? No, non lo vedo come futuro, non la voterò mai quello. Come legge, poi ognuno segue le leggi che permette, ma non, spero che venga su nella migliore delle maniere possibili, però parte un gradino più sotto, parte svantaggiato. Allora, adesso c'è la pubblicità, però ti dico una cosa, molti hanno protestato anche in maniera ridicola, facendo il dito medio, eccetera, sulla questione del Family Day scritto sul pirellone, no? Chi se ne frega, eccetera. Però quel palazzo lì è anche un palazzo mio. Io sono nato sono residente in Lombardia, lo sento come palazzo mio. Perché un'istituzione deve prendere parte in maniera così esplicita a una manifestazione che è chiaramente una manifestazione contro le unioni gay, contro le adozioni gay? Io lo trovo ridicolo. Quello è un palazzo delle istituzioni che deve essere un po' salvato da queste cose, no? Di parte o no? Fermi tutti. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. La Zanzara. Allora ragazzi, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, il numero invece per i vostri WhatsApp, 393 71 71 701. E come ogni lunedì il segretario della Lega Nord Matteo Salvini con noi dalla saletta VIP dell'aeroporto di Bruxelles. Caro Parenzo, prima Salvini ha detto Elton John, se fa il pippotto a favore dell'adozione gay eccetera eccetera, no grazie a Sanremo. A proposito di Maroni invece volevo capire una cosa, io sono sicuro, no, fatta con soldi pubblici peraltro, cioè sono sicuro, esatto, sono sicuro che Salvini quell'energia non... elettrica l'hai pagata, esatto, io che sto a Roma, ma... sono sicuro che Salvini questa cosa qui non l'approva, perché dipingere sulla facciata del dipingere con le luci, diciamo, sulla facciata della regione che è anche mia perché la pago pure io, una roba come potrebbe esserci scritta qualsiasi cosa, e anche gay pride uguale, cioè lo trovo una cosa senza senso. Salvini? No, io invece la condivido perché c'era nel programma con cui abbiamo vinto le elezioni. Vabbè, ma che il c'entra sostegno questo? Alla famiglia. Vabbè, ma quella è una cosa, il sostegno alla famiglia è una cosa, il sostegno una volta sceglie un progetto di vita, sceglie però, un scusami, progetto di vita. Matteo, Vale le bandiere arcobaleno che sventolano fuori da 38 comuni di sinistra che non vogliono dire assolutamente un cazzo dal mio punto di vista, le bandiere della pace di chi poi va a fare la guerra. È una presa di posizione politica non nascosta, ci abbiamo vinto le elezioni, il programma... Sì, ma la sostegno alla famiglia è una cosa. Ma il sostegno alla famiglia è una cosa, quello è il sostegno a una manifestazione. Quindi l'adesione a un'iniziativa... diritto, poi sì, uno può essere d'accordo o non d'accordo. Ho capito, diritto. Ma è una cosa diversa il sostegno a delle politiche a favore della famiglia e il sostegno a una manifestazione che è chiaramente una manifestazione contro le unioni gay e contro le adozioni. Allora, sai la cosa bella di oggi? La cosa bella di oggi su Facebook, che ho avuto modo tra un aereo e l'altro, peraltro io sono a Bruxelles e sono incazzato come un bufalo. Perché? Con quel fenomeno di Renzi, che ha detto abbasso l'Europa, io difendo l'interesse degli italiani. Proprio oggi nel pomeriggio nella mia commissione col voto del PD hanno permesso l'ingresso in Europa di altre 35.000 tonnellate di olio di oliva tunisino. Vabbè, ma è una cosa complessa, dei consumatori italiani. Vabbè. No, è una cosa che ci arriva in tavola, sì, con sì, quali cazzo di garanzie ci arriva l'olio dalla Tunisia, con tutto il rispetto. Quindi un conto è fare il fenomeno, un conto è poi votare contro l'agricoltura italiana a Bruxelles. Detto questo, il sostegno alla famiglia c'era nel programma, c'è, lo condivido, poi rispetto le scelte di tutti, chi discrimina sul posto di lavoro in base alla natura sessuale è un cretino, ma oggi ti dicevo la cosa bella, ho avuto modo di dialogare fra un volo e l'altro su Facebook con alcuni gay, mi ricordo questo ragazzo Gianni che convive da 13 anni col suo ragazzo svedese, che mi confermava, guarda che questa è una menata politica che interessa a pochi anche nel nostro ambiente, toglietemi la legge Fornero e fatemi pagare meno tasse, a me delle adozioni e dei matrimoni non me ne può fregare di meno. È una bandiera politica. È una bandiera politica usata da qualcuno per coprire altri problemi. Ma la Lega in Parlamento come voterà? La Lega voterà contro? Ogni volta che parla mi fa cadere le palle. la Lega voterà contro perché devono portare la discussione sulla legge Fornero e gli studi di settore. Vabbè, no, ho capito, però la evidentemente la Lega è contro questa roba qua, non è che vota contro perché non si, perché si parla di questa assolutamente sì. Assolutamente sì, sono e rimarrò contrario a ogni ipotesi di adozione. Ma qui non c'è l'adozione, però non mi farà mai cambiare. Ma non c'è l'adozione è qui. È la stepchild adozione. Ma poi parliamo anche della reversibilità. Sì. Parliamo anche della reversibilità. Cioè costa troppo? Costa troppo. Mi dicono da 3 anni che non si può toccare la legge Fornero perché non ci sono i soldi. Sì. Ora, di punto in bianco approviamo la pensione di reversibilità per migliaia di coppie che dichiarano di essere coppia. Ragazzi, onori e oneri. Onori e oneri. Matrimonio, cioè, tu, sono onori e oneri. Cioè tu dici che costa troppo e dunque non si può fare la cosa della reversibilità? No, io sono contrario di principio. Ognuno deve poter. Cioè sei contrario anche alla reversibilità tra i gay? Il diritto all'assistenza sanitaria. Però non alla pensione. Io sono per la pensione di reversibilità per le coppie. Una coppia di fatto, io, che non sono sposato, non ho nessun tipo di reversibilità. Cioè tu sei a favore della reversibilità della pensione solamente per gli eterosessuali, in pratica. Sposati. No, per le coppie sposate. Sì, eterosessuali. Eterosessuali. Visto che il matrimonio appunto. L'uomo e la donna. No, ma tanto per capire, cioè tu sei contrario al fatto che una coppia gay si possa, diciamo, la persona che sopravvive, diciamo così, possa ricevere la pensione dell'altro. Sei contrario. Nel momento in cui voto contro questa. Per capire, sei contrario alla cosa di versibilità perché costa. Ma perché? Certo. No, ma anche per principio, immagino, perché... Certo. Perché no, ma scusami, non c'è lo... Cioè, mentre assolutamente ha una logica... sì. Cioè, non no, solo per sì. Una questione di costi, penso per una questione anche di principio, perché il matrimonio, secondo te, è solamente quello tra uomini... No, guardi i soldi, ma... Assolutamente sì. Vabbè, senti, ma... Assolutamente sì. De Rossi che ha detto zingaro di merda, è da punire, secondo te? Ma ti pare che adesso dovrebbe essere stati 4 giorni a inseguire il dibattito su Sarri che ha dato del finocchio a Mancini? Adesso dobbiamo, cosa facciamo? Una commissione d'inchiesta parlamentare per capire come punire De Rossi che ha detto zingaro di merda all'altro che probabilmente gli ha insultato la mamma, la figlia, la nipote. No, diciamo lasciamo che, però... di giocare a calcio. Magari vabbè, è un insulto un po' diverso. Non rompiamoci le palle su questo. È un insulto un po' diverso, cioè... direi. Ma perché non lo credo? Pagandoli di meno, non è che ci può essere il tetto all'ingaggio. Tu metteresti un tetto all'ingaggio dei calciatori? È un delitto. È un delitto, ha detto qualcosa di dubbio gusto, per carità di Dio, reprimenda, tirata d'orecchie, ma finiamo da lì adesso. Non è che il problema italiano sia il fatto che De Rossi ha detto zingaro di merda un attaccante. No, vabbè, d'accordo. Il problema italiano è che nei campi da calcio avviene quello che avviene in politica, spesso sugli spalti della politica, e cioè si usa del razzismo un linguaggio inaccettabile. E questo, il fatto che avvenga in cioè politica... zingaro di merda non è razzismo, secondo te? Direi. Matteo, zingaro di merda. Ma è come beh, perché se ti danno del figlio di puttana tu devi sorridere. Ma è un po' diverso però, figlio di puttana e zingaro di merda. No, è un po'... Insulto di serie A. No, e adesso facciamo la gradazione degli insulti. No, ma oggettivamente... Parenzo, spezzo un'arancia, perché effettivamente al governo abbiamo una banda di razzisti complici di una strage nei confronti degli italiani che è quotidiana, purtroppo, perché i crimini riconducibili ai immigrati, troppo spesso clandestini, sono ormai una strage che quotidiana che inizia a darmi veramente fastidio. E dunque, secondo te la strage come va punita? Cioè i veri responsabili che sono, secondo te, Renzi, no? Renzi e compagni? Espulsioni di massa. No, ma d'accordo, ma, come, massa, ma che faresti? Espulsioni di massa. Ma che vuol dire espulsione di massa? Come si fa a fare l'espulsione di massa? Vabbè, guarda, ma li prendi e li cacci fuori a calci. In questo, mentre noi stiamo alla zanzara, in questo momento in Italia ci sono alcune centinaia di migliaia di immigrati clandestini. L'anno scorso l'Italia è riuscita ad espellerne 25.000. Avanti di questo passo finiamo nel 2050 a espellere i clandestini. Facciamo un bel repulisti? E come? Repulisti come? Cioè tutti via immediatamente? Cioè, ma come fanno gli altri? Lo prendi, lo metti in aereo e lo spedisci a casa sua, Non è che occorrano le mongolfiere o cose strane. Espulsioni di massa. Dei controlli nei quartieri popolari a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino, chi non ha diritto di stare qua, primo aereo, 2 pedate nel culo e a casa. Senti, però un tuo deputato oggi ha detto, tornando alla questione dei gay, un tuo deputato che si chiama Centinaio, che credo che sia anche il capogruppo, ha detto che prima o poi si può arrivare anche al matrimonio tra uomo e cane in questo modo, cioè ammettendo il matrimonio gay si passa facilmente anche a quello tra uomo e cane. È successo, lui dice, in qualche paese, ma secondo me in realtà l'uomo è il cagnolino, con tutto l'affetto per appunto, i quadrupedi, è una stronzata, ha detto una stronzata, i canini, diciamo, è un'altra roba, quindi penso che siano due piani completamente diversi. Ma sì, ma, meno male, cioè, perché sennò altrimenti uno pensa che... digli qualcosa però, no? No, altro cioè... paio di maniche, altro paio di maniche, sì, sicuramente glielo dico, altro paio di maniche è qualche islamico integralista che pensa di portare anche in Italia la poligamia. Sì, ma l'introduzione, ma d'accordo, ma l'introduzione, no, no, l'introduzione dell'unione gay, che c'entra con la poligamia però, scusa? Nulla. Cioè, no, no, niente, ma stavo dicendo, ma come c'entra l'uomo col cane? Non c'entra assolutamente un accidente, fortunatamente, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di uomini, donne. E invece hai goduto, no, appunto, eterosessuali. Certo, hai goduto. Uno può fare quello che vuole, per quanto senza scimmiottare. L'ha detto perfino il Papa, il matrimonio è un conto, altre scelte di vita sono rispettabili, ma sono altre scelte di vita. Hai goduto quando ha pareggiato il signor Lasagna dell'Inter, del Carpi con l'Inter? Hai goduto, sì o no? No, non mi fare più parlare mai degli interisti, che poi l'altra volta mi hanno detto, ma come, tu sei politico, dovresti parlare bene di tutti, fai il democristiano. Appunto, non fare il democristiano. Ho sofferto profondamente al pareggio del Carpi a tempo scaduto, come sono in preparazione mentale per il derby di domenica prossima, che ahimè perché non va in curva? Vedere, perché? Faccio... perché non riuscirà a vedere? Non può, ma guarda, non vedo l'ora di tornarci, ci andrei di corsa, perché ci ho fatto tanti anni... Cioè vorresti andare in curva un'altra volta? Oh, pronto? È andato via, dai. Ehi. È sparito a Bruxelles. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. La Zanzara. Oh ragazzi, 20:12, tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Michele della provincia di Cosenza, che è un po' di tempo che aspetta. Michele, vai. Sì, Cruciani, buonasera, salve. Io volevo dire mi sento offeso dai gay. In che senso, Michele? Allora, ti dico, io faccio l'autotrasportatore, sì. Mi sono fermato in una piazzola e c'era un ragazzo con un vibratore attaccato alla ventosa della macchina che mi faceva vedere. In che zone bazzichi? Ma vado fino a Roma, da Catania fino a Roma. Quest'estate, sì. Quest'estate c'era un ragazzo con la macchina ferma di sera, con il vibratore, con la ventosa. Ma la ventosa, che cos'è la ventosa? Non capisco la ventosa. Hai visto la ventosa, quella che si attacca? Cioè, ma per appendere il vibratore al vetro? No, sì. E lui faceva uso di questo vibratore e mi faceva la lingua. Che ha fatto, scusa? Come, che si inculava? No, non ho capito. Eccola. Sta facendo una descrizione adesso, scusami. Ma non era necessario. Allora, ha attaccato questa ventosa alla macchina. Ho capito. E lui a pecorina faceva quello che capito, benissimo, ho capito. Ma come dici? È una descrizione di Michele di quello che avveniva. Ma quale descrizione? Ma siamo mica a report qua, dai. Ma se io mi fermo che faccio i miei bisogni, è normale che mi trovo uno dietro di notte con il pistolo di fuori? Ma qual è il problema? Non ho capito, che può succedere di strano, che può succedere di male, che può succedere? Se mi fermo io in una piazzola, sì. E si ferma una donna che guida un pullman, perché ci sono, guidano i camion. Denuncia per... No? Io mi tolgo il pistolino di fuori e faccio qualche gesto, penso che avrò qualche denuncia. Vabbè, ma perché non l'hai denunciato allora questo signore? Perché la polizia mi ha detto non possiamo farci niente, che... Ma che fastidio ti ha dato? Oggettivamente che fastidio ti ha dato a te? Mi faceva schifo. Uno mi ha seguito per oltre 100 chilometri. Pure. Ma e che sei? Sì, Brad Pitt dei camionisti? No, chi sei? No, sono malati. No, ma non ho capito, ma tutti, non è che. Ma siccome di camionisti ce ne sono tanti, non è che uno che ti segue per ma 100 chilometri. Sicuramente, evidentemente sei una specie di modello dei camionisti. Ma non lo so, ma neanche mi vedono quando guido di notte. Però ti seguono, ti fanno gli stop, ti tagliano la strada. Ma che stai descrivendo? Allora c'era un parcheggio dopo Ponte Cagnano che è stato chiuso dalla polizia. Addirittura. Apposta per questo. Sì, non sto scherzando. Si chiamava, non mi ricordo adesso il parcheggio, però subito dopo Ponte Cagnano direzione Napoli l'hanno chiuso apposta per ordine pubblico. Ho capito, che dobbiamo fare. Perché c'era l'assalto. L'assalto gay. No, c'erano 30, 40, 50 macchine. È una specie di esercito gay. Tu con i fari entrare e vedi lo schifo. Ma lo schifo. I preservativi che c'erano là, secondo me, in una fabbrica di preservativi non ci sono. Tipi da zanzara. Allora, benissimo, andiamo a Milano da Mario. Caro Mario, vai. Sì, ciao Lorenzo, ciao Crociani. Allora, io sono un ragazzo di 26 anni, sono frocio e in questi due giorni di zanzara ho scoperto di essere... Non sento niente, Megan da Treviso, mi avete rotto le scatole con questi telefoni. Megan da Treviso, vai. Pronto, Crociani? Dimmi, dimmi. Ciao, intanto volevo dirvi che vi seguo tutte le sere. Bene, vai avanti. E niente, io volevo parlare di quel ristorante che ha vietato l'entrata ai bambini. Allora? Essendo io cameriera, sì, ti assicuro che questa è l'idea più brillante che ci sia. Sì, sicuramente un'idea di pubblicità, di marketing, perché dalle telefonate che ci sono arrivate, addirittura mi sono arrivate telefonate di gente che è andata apposta, dopo aver sentito la zanzara, a cena da quel signore là. Dunque, qualche risultato dal punto di vista dell'incasso l'ha fatto. Vabbè, Megan, tu da cameriera dici che ha ragione questo ristoratore? Assolutamente sì, voi non avete idea di che cosa significhi farsi 8-10 ore con bambini ululanti e madri isteriche. Vabbè, adesso non esagero, non è che tutti i ristoranti sono ricevono l'assalto di bambini che passano attraverso i tavoli e fanno casino, eccetera. Sì, cioè, in alcuni casi può essere pesante, cioè, il tuo ristorante evidentemente è frequentato dai bambini. Sì, sempre bambini, comunque bar, ristoranti, qualunque. Vabbè, perché ti rompono i coglioni i bambini? Ma gridano, piangono... Vabbè, spaccano allora... tutto, ti corrono tra le gambe. Ma adesso io, ragazzi, ho visto un sacco di bambini al ristorante, ma non ho visto mai scene così drammatiche. Possono dar fastidio perché urlano, eccetera, uno ha bisogno di calma, magari al ristorante vuole andare a cenare con gli amici e non vuole avere marmocchi in mezzo ai coglioni. Però non è che è una cosa così, non è che ho visto la distruzione dei ristoranti. Scusa, dove l'hai vista sta roba, Megan? Ma in qualunque ristorante dove ci siano bambini, soprattutto dove si festeggiano matrimoni, tutte queste cose qua, ci sono sempre bambini che corrono. E dunque volevi dire che ha ragione il ristoratore, giusto? Ha ragione assolutamente lui. Ciao amica mia, ciao. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La zanzara. L'unica cosa veramente figa del traffico, ma veramente figa, è che si nota chiaramente che anche lo speaker del traffico si rompe nettamente i coglioni di dire il traffico e vorrebbe sentire la zanzara, Cruciani, Parenzo, la battaglia, e invece deve dire il traffico e si rompe i coglioni. Cristiano da Milano, vai Cristiano. Buongiorno Beppe. Ciao Cristiano, dimmi. Ciao, senti, allora io volevo fare la DOP e la DOCG per la cacca. Non ho capito, cioè, scusami. Volevo avere dei certificati per fare la cacca. In che senso? Nel senso che, tu dicevi, non vedo il problema, io la faccio in ogni dove, non ho assolutamente problemi a fermarmi anche in macchina se sono in giro per lavoro. Adesso, mentre ero in attesa, stavo arrivando a casa, però oggi l'ho già fatto un paio di volte, quindi penso di avermi malato, dato abbastanza. Malato? Non ti puoi fermare e andare in un bagno normale? Cioè, la fai, allora, se io devo andare nel bagno normale, ti faccio l'esempio, la minzione, perché in alcuni posti, addirittura a Milano, io devo pagare per minzionare? Ma veramente a me non risulta che tu devi pagare, cioè dov'è che paghi? Ci sono dei... Allora, se ti capita di essere anche in centro a Milano devi andare a minzionare, ci sono in alcuni posti... Minzionare sarebbe in realtà espletare le funzioni essenziali, insomma, no? Esatto. Devi pagare un euro oppure 50 centesimi. Vabbè, o se allora... no entri in un bar e consumi. Io non ho capito dov'è che la fai tu. Ovunque, dove mi capita. Vabbè, e quante volte al giorno? Che mestiere fai? Almeno un paio, l'assicuratore. Dunque giri, no? Giro spesso in macchina, quindi se sono per dire tra Milano e Como, Milano e Varese. Ma di solito dove la fai? Ti fermi sul ciglio della strada facendo di vedere da tutti? Di solito sul ciglio della strada. Sul ciglio della strada, la gente che passa e ti guarda? Che schifo. No, non mi interessa assolutamente. Non ti, sei anche un po' esibizionista, diciamo. Ma esibizionista, forse su altre cose, però non ho assolutamente nessun problema. Cioè, diciamo, non ti interessa, tu ti fermi sul ciglio della strada, anche una piccola strada, eccetera, e caghi. Sì, se ho l'impellenza, poi c'è il discorso, quella invece proprio reale, più bella, è nel proprio cesso di casa, con magari anche della musica. Vabbè, ma quella è normale, la musica. C'è la musica mentre caghi, perché tu mentre caghi metti la musica. Sì, sì, sì, mi aiuta. Anche. Ti aiuta la musica? Sì, sì. Vabbè, ma ragazzi, ma le perversioni sono tante. Cioè, io voglio scappare immediatamente dal bagno quando la faccio, in realtà. Cioè, quando no, vado, io scappo immediatamente, un luogo... Ma no, ma devi... No, ma lui dice che mentre... diciamo, aspetta, fammi sentire Davide. Io credo di aver capito, cioè lui dice che c'è tutto un rito attorno alla cosiddetta defecatio, cioè bravissimo, uno... sì, defecatio, ecco, non petita, defecatio manifesta. Esatto, cioè uno si appresta ad andare in bagno, sente il bisogno, sente lo stimolo, sente che qualcosa preme in lui, c'è cioè qualche certo necessità. Sì, e allora in base dice... anche a quello che si è mangiato magari il giorno prima, esatto, la sera prima. Allora il piacere che lui ha, e che peraltro posso avere anch'io, è quello di dire... trattengo ancora per un po', quasi con quel dolore che c'è nella precedenza. Bravissimo. Ecco, no, ma è che io ho capito perfettamente la fenomenologia che descrive il professore. E quindi cosa faccio? Mi apparecchio e dico, beh, trattengo ancora qualche minuto, perché per fortuna ho il bagno vicino. Il dramma è quando tu non ce l'hai, quello lì si scatena veramente un tuo... No, lì si scatena. Sì, ma la musica che c'entra, scusa. No, allora tu ti appresti e dici, aspetta che mi accendo un po'. Io non lo faccio, ovviamente, ma dico... mi accendo un po' di musica, allora cominci a prepararti questo rito laico. Ma non c'è grande... nessun rito, è una cosa che deve essere, come dire, fatta in maniera molto veloce. Questo ascoltatore invece ti dà questa dimensione, come il dire, rito, il rito con la cosa, con la roba che si deposita là, inizia a esalare tutte le sue. No, sì, ma bellissimo, ma questo aspetto così greve. In realtà lui dice mi accendo la musica, poi vai nel bagno, nella tua stanza da bagno. Guarda, è una discussione meravigliosa, però c'è una notizia molto importante da dare, se non sbaglio, perché insomma tutti viaggiamo, eccetera eccetera. C'è un uomo armato alla stazione Termini a Roma, con i binari bloccati, chiusi gli accessi, evacuazione in corso, secondo testimoni sarebbe armato di fucile. Naturalmente più tardi, se ci saranno aggiornamenti, la nostra redazione di Radio 24 provvederà all'uopo. Amico tu, amico mio, sei a Siena, tu che cazzo te frega? C'è un sacco di gente che a Roma sta andando a Roma, è comunque una notizia molto importante. Ma è fondamentale, tieni aperte le linee, fai collegare qualcuno subito, accendi vabbè, i telefoni. Ripeto, chiusi gli accessi alla stazione Termini, fatti chiamare da qualcuno che è lì, chiamiamo accendiamo subito una grande diretta su questo. Ma ho capito, ma adesso vedremo, non no, ti preoccupare, ma non puoi stare così tranquillo, ti ecciti per la cacca, c'è una situazione così, amici che siete lì, che ascoltate, tassisti, certo, in zona, questo sì, questo sì, ma no, una lunghissima maratona da qui fino a l'una di notte, no, per non c'è nessuna maratona, certo, l'editoriale di Roberto Napoletano, avremo di tutto, ricchissima trasmissione, sarà con il Napoletano, devi stare tranquillo, devi stare calmo, devi stare tranquillo, allora ma devi stare tranquillo, maratona. Il grande appello è questo, chiunque sia naturalmente nella zona della stazione Termini, eccetera eccetera, sia ascoltando la Zanzara, sicuramente ci saranno tassisti che sono fermi lì davanti alla stazione Termini e stanno ascoltando storie meravigliose che riguardano i gay nelle piazzole, come si fa la cacca, Salvini che dice le sue cose, eccetera eccetera, ci facciano una chiamata per dirci insomma come stanno le cose lì, se veramente c'è il terrore alla stazione Termini, adesso lo dico seriamente, perché c'è comunque un'evacuazione, dunque ci sarà un po' di caos, pathos, caos, no? Vabbè, Cristiano, andiamo a Cagliari da Francesco, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, innanzitutto dimmi. Io sono originario di Roma e mi spiace sentire questa notizia. Comunque volevo intervenire perché con un argomento che magari non c'entra niente, però io lavoro in un bar e a me sinceramente... Se ma magari, magari sarà un coglione qualsiasi, non è mica detto che sia una cosa... Ma lo spero, perché lo speriamo, arrivato a sto punto, io so familiare e tutto quanto, ma da 10 anni sono felicemente sardo. Comunque... Non ho capito niente, hai familiari dove? A Roma, Roma, ma ho capito, Roma. Mica stanno alla stazione Termini, no, non è che tutta Roma è in pericolo adesso. Cioè no, mi fa... no, speriamo di no. Comunque io il discorso è questo, io lavoro in un bar, a me sinceramente il fatto del signore che ha esposto il cartello che ha dato ingresso a bambini, sì, oggettivamente ce ne avevamo le palle piene, mamma di mia, che cosa? Sempre ancora in mezzo i coglioni, sti ragazzini che corrono, tu sei là... se mi casca un vassoio in testa a un ragazzino, lo ammazzo. Vabbè, ho capito, ragazzi, però no, non è no, che si il può... Il discorso è che i genitori, purtroppo, non si ritengono a bada. Hanno preso una cavolo de sala ristorante appena si è unito. Ecco per che cosa scambiano i ristoranti. Perché non c'hanno un cazzo da fare, non vogliono controllarsi i ragazzini. Ma sì, andiamo al ristorante, e sei i ragazzini che ti sfrecciano davanti. E te nel frattempo permesso... piatti, bicchieri a destra e a sinistra. Io preferisco i cani, fate entrare i cani, io voglio i cani, io voglio appena dei cani. Non l'ho mai dovuto cacciare fuori perché sono ubriachi, non si rubano le cose, non rompono i coglioni. Fate entrare i cani dentro i ristoranti, non abbiate l'accesso ai cani, che vietano tutti questi cani. Che qual è il problema? I ragazzini, il problema sono i genitori che non se li controllano, i genitori che non hanno voglia di controllarsi e li lasciano così. Secondo me è il ristoratore ha fatto più che va bene. Va bene, ciao, grazie. Giuliana Rimini, vai, Giuliana. Pronto? Dimmi, dimmi. Buonasera. Volevo intervenire sulla questione delle nozze, del matrimonio, unione, dimmi, insomma, dimmi. Comunque si chiamino. Cioè, intanto volevo dire che, secondo me, cioè, non è un diritto il matrimonio. Il matrimonio omosessuale non è un diritto. Viene definito un diritto e non ho capito vabbè, perché, poi? In primis. E in secondo luogo la contrapposizione fra Chiesa cattolica e laici. Qui la contrapposizione è fra istinto e razionalità. Cioè, l'istinto sessuale da una parte che ti porta ad accoppiarti con chi ti pare. E la razionalità quale sarebbe? La razionalità sarebbe la biologia, la fisiologia. No, ma non ho capito l'istinto che porta ad accoppiarti con? Con chi ti pare, cioè se ti cioè, piace per esempio uomo... con chi? Uomini fra uomini, donne fra donne, con chi ti pare. Cioè, animali, animali. E beh, è stato fatto anche quello, penso che sia tuttora... Cioè, secondo te l'accoppiamento tra animali è uguale all'accoppiamento tra due uomini no, o due donne? No, però se tu hai voglia di accoppiarti con un animale, con le pecore, con i cigni, lo facevano, no? Dicevano, con le galline, lo appunto. Fatto con... metti sullo stesso piano l'istinto di accoppiamento tra due uomini o due donne ognuno, con quello tra un uomo e un cigno. È libero, ognuno è libero. Ma non è la stessa cosa, sono due cose diverse, basta con questa cazzata. Sono cose diverse. Ma però anche quello tra uomo e donna è l'istinto, è come quello tra uomo e uomo, tra sì, donna e donna è istinto anche quello. Sì, d'accordo, è istinto però codificato dalla biologia, dalla fisiologia e praticamente dalla natura. Ma anche in natura esistono gli omosessuali, non è che esistono. Sì, la natura ha creato gli omosessuali, mi dispiace per voi, sì, ma la natura ha creato i froci. Sì, sì, d'accordo, le ha fatti la natura, poi i media li hanno alimentati. Che hanno alimentati? Non hanno alimentato niente i media. Va bene, cioè, d'accordo, però volevo dire hanno che alimentati. La natura ha fatto in modo che dall'accoppiamento... Ma perché le dà così fastidio l'idea che due uomini si possano inculare? No, a me non mi dà fastidio che lo facciano tranquillamente. E cos'è che le dà fastidio? Che ci sia... fastidio che si vogliano sposare? Mi dà fastidio che loro considerano il loro matrimonio un diritto, perché non è un diritto, si sposano, vanno a fare la cerimonia, ma tanto non si sposerà nessuno. Quando capiranno che il matrimonio è una prigione, non si sposerà nessuno, glielo dico io, non si sposerà nessuno. Fermi lì. Comunque sei un po' bruttarello, anzi forse sai, capito? E non rompere tu il coglione, perché sei anche maleducato, stupido. La Zanzara. Senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. Allora, caro David, ti pare normale che uno... Ma che novità ci sono alla stazione Termini? Scusa. No, per adesso non ci sono, adesso magari qualcuno chiama e ci dice se... No, ma le ultime notizie cosa dicono? Hai ripreso la circolazione dei treni, vero? No, le ultime notizie alla stazione Termini dicono che c'è questo signore armato di fucile, che c'è un'evacuazione, No, a me hanno comunicato che queste qui non è, cioè, i treni sono ripresi a circolare. Intanto. Caccia un uomo armato di fucile, bloccata la circolazione, poi magari ripresa la circolazione. No, poi il traffico riprende, ripresa la circolazione. E che invece sembra che stanno setacciando addirittura via Giolitti, cioè sarebbe avvenuto questo, almeno da quello che vedo da queste agenzie, che però strano che le abbia io e non tu, che sei a Milano. No, no, ma io non le controllo, queste cose, tanto non si sa mai qual è la situazione. Appena ci sono delle novità. Stanno verificando tutti i negozi anche in via Giolitti. Che sarebbe, tu dici chi se ne frega, stanno però, cacciando un uomo armato di fucile, stanno dando la caccia a un uomo armato di che fucile che avrebbe un cappellino blu, dicono qua alcune segnalazioni. Sì, ma che vuoi fare la maratona di Mentana, che vuoi fare? Io nessuna maratona, però siccome siamo una radio in diretta, magari è qualcuno, ma sì, va bene, che se ci sono delle, se ci sono delle, se il caso di un gatto, se ci sono delle novità, se ci sono delle novità su questa caccia, sì, se ci sono delle novità su questa caccia all'uomo armato di fucile alla stazione Termini, ve le daremo prontamente. Caro Parenzo, ti pare normale che la signora Parietti mi faccia sapere attraverso delle foto che escono sui giornali che ormai ha praticamente abbandonato qualsiasi tipo di pensiero su di me, abbandonandosi nelle braccia di una sua ex fiamma, che per carità è un bell'uomo? Io lo sapevo già da tempo, ma non ho voluto dirtelo. Ah, non hai voluto dirmelo? No, mi era già arrivata la notizia da tempo, da un amico comune. Poi come si chiama questo qua? Christopher Lambert. No, un personaggetto. È un personaggetto. Ma chi stai scherzando? Un attore. Uno dei più grandi star. Sì, ma ormai superato, passato, morto, finito. Cioè, che fa adesso? Cioè, fa niente adesso. Che fa Christopher Lambert? Personaggetto, come direbbe De Luca. Sempre Christopher Lambert. Sì, è sempre Christopher Lambert. La differenza però è questa qui, che se in America la signora Parietti va in America e dice "Do you know Christopher Lambert?" ti dicono yes. Se lei va a New York e i suoi amici lui dice "Do you know Giuseppe Crociani?" dicono "Who?" questo dipende che amici, però è vero che, per carità, no, però ormai è una roba superata. Comunque io devo sapere attraverso delle foto che sono stato praticamente cassato, sono stato messo in un angolo, vilipeso, una roba quasi da denuncia penale. Alba, veramente mi hai fatto un torto. Ma quante cazzate riuscite a dire? No, a pagamento spero, perché vi pagano. Cioè, no, è ancora peggio. Cioè, mi hai fatto un torto che tu nemmeno puoi immaginare. No, ma lo sai. L'idea che ti paghino, no, è già un'idea. No, io temo che magari se invece andiamo a New York e dici "Do you know Giuseppe Crociani?" Senti, te riconoscono, mi corcano. Sì, ma ti pare normale che tu mi fai sapere che mi fanno un culo come un secchio, come dicono a Roma? Ma ti pare normale che tu mi fai sapere che sei tornato a bazzicare Christopher Lambert solo con delle foto così e senza mandarmi un messaggio? Non avevo il coraggio di dirtelo di persona. Ecco, non avevo il coraggio di dirtelo, ho preferito così non ho dovuto una botta forte e via. Ormai questo Christopher Lambert, io ho apprezzato il vorrei dire una cosa a Crociani. Sì, guarda, cara, che adesso non per difendere le persone a cui voglio bene, ma ha appena fatto un film con i fratelli Coen, non so se tu sai chi sono i fratelli Coen, cioè sì, sei un po' ignorante. Più o meno lo so. Poi anche con un certo Lelouch, che sempre tu non sai chi è, però insomma. No, lo so, Claude Lelouch, come no? Certo, esatto. Certo, poi che insomma, so solo chi è. Non sto a farti la filmografia, perché Highlander è Highlander, non è che ce ne sono tanti. No, ma per tocca carità. Di parlare di un argomento di cui non vorrei parlare, perché avevo detto che non ne parlerò, però visto che ne parli, voglio difendere l'onore di Tarzan e Christopher ma Lambert. Si può dire che sei fidanzata o no? Io questo vorrei capire. Allora, questa è una domanda a cui non intendo rispondere. Vabbè, ho capito, ma è una domanda che ti devo fare per forza, lo sai, no? Cioè, non è che non te lo posso fare. Sei andata alla signora Toffanin sabato e hai parlato. Ma non ho detto che sono fidanzata. Ma no, hai detto delle cose generiche. Ci frequentiamo, vabbè, che ci adoriamo. Vabbè, quello sei. Che ci stiamo studiando, che ci sentiamo tantissime volte al giorno, anche 10 volte al giorno al telefono. 10 volte al giorno è finita, allora. Allora già è finita. Già vuol dire che è finita, amica mia. Cioè, se vi sentite. Ah, meno male. Guarda, mi hai dato veramente una bella notizia. Cioè, scusa, quale sarebbe la bella notizia? La bella notizia è questa, che ho ancora qualche speranza con Alba, perché no, perché io a te ti sento molto meno al telefono, però poi c'è il grande vantaggio, vedi, tra ma me questo lui, che noi adesso aspetta, ti voglio spiegare il grande vantaggio tra me e Christophe in questi 20 anni in cui ci siamo visti poco, ci siamo scambiati un sacco di cose affettuose, abbiamo ancora delle, poi siamo cambiati molto, quindi uno scoprirà delle altre cose dell'altra, per chissà, tutto è possibile, tutto può accadere, chi lo sa, lo saprai dai giornali se mi no, stavolta mandami un messaggio prima, no, incide, perché quello che ti voglio che dire, vuoi fare un figlio ancora? Vuoi fare un figlio? Aspetta, sai qual è il trade union, Crociani, fondamentale? Qual è? Che tra due persone che parlano, bene o male lui parla un po' male l'italiano, io parlo male il francese, male, e peggio okay. ancora l'inglese. E come parlare allora? Il grande vantaggio che non ci si capisce mai completamente. A te ti capisco, hai capito? È quello che ci è stato fregato. Perché il fatto che io ho visto quello che dici però, è la fine. Questo però è straordinario, perché mi hai dato due notizie molto molto positive. La prima è che vi sentite spesso durante la giornata. Magari ci vediamo anche, amore. Non è ma detto quello vi siete visti, già lo so, ma insomma tanto sicuramente sesso non l'avete fatto, per cui non c'è dubbio. Ma questi sono fattacci poi nostri. Ma sì, ma dai, lo ma so che a letti ti rode proprio il fatto sessuale. Ma punto, no, e basta. No, ma quello no. Ma c'è un fatto spirituale della vita. Spirituale, per carità, ma non parlate, che spirituale c'è? Non parlate, quello parli. Ma tu non parlare? Hai detto che non capisci quello che dice, scusami. Ma no, ho detto che nel tuo caso il fatto di capire quello che tu dici, che è ancora peggio, è quello appunto proprio che blocca tutto. E con lui invece di... e con lui invece non vi capite, ma dunque no, non c'è la cosa spirituale. Però il fatto, la fascinazione di una lingua diversa, il fatto che sai si parla in tante lingue, noi parliamo come quelli di Nome della Rosa. Ma com'è a letto lui? Due par- ma fatti fatti tuoi. No, in generale, non questa ma volta. Scusa, ma se uno if you go back, you don't go back, cioè if you go, you do, you, insomma, se si torna sei indietro, impiccata. Evidentemente male non ci siamo trovati. Ah, comunque, if you try if you try Lambert you go back. Questo. If you è stato comunque rotto. Quello che voglio dire, Cruciani, con te tornano le donne, questo vorrei sapere. Con me le donne tornano, sì, purtroppo sempre, sì. Devo dirti perché ti hanno dimenticato un orologio, perché no, devo dirti la verità, ma Parenzo lo sa questo. Portafoglio. Però Parenzo te lo può confermare, tornano. Voglio sapere perché Parenzo me lo può confermare, ma che c'è? No, nel senso che tornano per dire a stronzo, poi se ne vanno, capito? Quello che temo, hanno dimenticato la catenina, il portafoglio, se ne accorgi che gli manca un 50 euro. Quello lo sai che succede, no, 50 euro no, ma dimenticano spesso, dimenticano le cose, dimenticano i bracciali, gli anelli così, questo andrà. Beh, ma le donne fanno spesso questo. Sì, le donne lo so. Dimenticano spesso, soprattutto per farlo trovare dalle altre donne. No, per sì, per poi dire sì, per poi io così. Invece guardo, ho preso l'abitudine che se trovo per caso un anello, un bracciale di un'altra donna a casa del mio uomo, sì, me lo tengo. Ah, non ma fai, fai bene, fai bene. Che bisogna si fa prima, guarda. Fai bene. Io te, cioè, tu ti tieni gli oggetti lasciati a casa dalle ma altre. No, ma perché una deve fare una scenata, poi invece tu ti tieni, coppia, ti tieni direttamente. Invece tu gentilmente, se una ti dimentica apposta un orologio, un anello, una cosa, tac! Una vale la pena, tu te la infili prontamente in borsetta e tanto lui non potrà mai rivendicarla, no? No, assolutamente. Senti una cosa, ma allora non si può dire che siete fidanzati? No, non ho detto che non si può dire che siamo fidanzati, ho no, detto che non voglio dire non vuoi che dire siamo fidanzati. Cioè vi state annusando, annusando di nuovo. Ma vi state... annusando è orribile come te. No, è bellissimo. Sta di bestie proprio. No. Due animali, due porci. Beh, tu di bestie, tu di bestie te ne intendi perché hai fatto quella mezza gaffe di quella cosa pubblicata con due cani che si inchiappettevano. Ma no, lascia, sì, vuoi che ti dica cosa? Allora, adesso vi spiego. Adesso a te spiegherò che cosa è stato. Cosa è successo? Adesso te la racconto. Questi sono i miei cani, allora, tali cane e tale padrona. Che, guarda, adesso te la dico perché è l'unica cosa che dimmi, vale la pena di raccontare. Dimmi. Allora, il fatto dei miei due cani, che era una foto famosa, tra l'altro, perché me l'avevano fatti i paparazzi a Courmayeur, che si ingroppavano, insomma, sì, questo lo sanno tutti. Si inchiappettevano, si inchiappettevano. Allora, praticamente l'altra sera, ridendo, perché ci scambiamo delle cose divertenti, oltre che mentre chiacchieriamo, e io gli ho detto, ti ho due cani meravigliosi che tu ancora non hai visto, perché lui non è ancora venuto a casa mia base, no, e gli ho detto, guarda, ti faccio vedere che foto hanno pubblicato una volta i giornali, perché era sparsa Courmayeur, guarda che foto. Gliela giro nella mia testa, anche con una battutaccia sotto, e poi me la dimentico, gli dico, hai visto che carina la foto? Dice, no, veramente non mi è arrivato niente. Io poi continuo a guardare e gli rimando la foto. Dopodiché guardo la mia pagina Facebook e mi accorgo, come sarà successo a te, hai pasticciato, che l'avevo pubblicata. Hai pasticciato invece, esatto, di mandargliela. L'ho cancellata, però se ne sono accorto. Per cui, ma per, è andata esattamente, ma per così. Chi era? Scusa che ho perso un attimo, tu sei stata molto veloce nello spiegare. Chi è che chi era indirizzata questa roba? Era indirizzata alla persona di cui stai parlando, con cui stavo ridendo al telefono parlando dei cani, capito? Questo è. E chi sarebbe? Il signor Lambert? Ma te che te frega, si poteva essere lui come un altro, comunque era lui. In ogni caso ridevamo su questo. Ah, e... hai mandato a lui questa foto? Dunque, proprio tra... Ma cosa cambia? Potevo aver mandato anche una mia allora, amica. Per capire, come... per non ti è mai capitato di cliccare assolutamente, per sì, quello è vero. Allora, per fare... sbaglio, no, ma quello fatti... è vero, ma quella è una cosa divertente, infatti, non sto dicendo è nulla. È una cosa simpatica. No, detto, ma tu sei anche molto simpatico. Tutta la tua vita, a parte quando parli di immigrati e quando parli della Lega, no, tutta la tua vita è una cosa meravigliosa. No, io allora, adoro. Perché tu adesso mi stai dicendo che oltre che contro l'immigrazione, sei pure diventato leghista. No, cioè, leghista. Io non sono. Io sono hai una persona. Le leghista, poi non voglio dire. Io sono una persona libera. Guarda, io rispetto sono... quelli che rispettano me. Ma però ti voglio dire, di peggio che ti poteva capitare. Piattole, che dovevi fare? Ma cioè, i leghisti sono peggio delle piattole. No, non ho capito. Hai detto questo? Hai detto questo? Cioè, tu... No, ho detto con tutto il rispetto per i leghisti. E i leghisti essere leghista. Che se la pigliano con me, ho capito. Tranne quelli che non, per quelli non posso provare simpatia. Però è ovvio che se uno mi manda a fanculo e me ne dici di tutti i colori, non lo stimo, non lo rispetto. Sono state due o tre giorni roventi, si può dire, con il signor Lambert o no? Cioè... Ma ti, guarda, io non ti voglio dire. Io no, allora, sai che cosa voglio fare, d'ora in avanti? Che vuoi fare? Ognuno di questa storia può. Io ho già detto tutto quello che doveva dire la persona. Ma no, non hai detto niente, non hai no, detto. No, ho detto niente, per il modo migliore per viversi una storia. Sì. Allora, quello che voglio dire, io penso che il modo migliore per rivivere una bella, bellissima, meravigliosa storia con una persona a cui tieni sia lasciare che ognuno dica quel cazzo che gli parli, l'importante sono i rapporti. Ma, funziona ancora o no, signor Lambert, da quel punto di vista? Cioè, ma questo non te lo dirò mai, ma evidentemente. Cruciani, sì. Fatti una domanda e datti una risposta. E if you go back, if you go back significa che non... Bisognerebbe però domandarsi come mai... Ci ho detto, il problema tra me e te è che capisco quello che dici. Io sono amareggiato dal fatto che funziona. Io pensavo che non funzionasse più. Mollami, questi sono fatti che, cioè, voglio dire, ma stiamo parlando di... No, pensavo che no, pensavo davvero di un signore che non conosce questa trasmissione, magari domani si trova sulle cose scritte, pensa che lo stiamo pigliando. Beh, per if you go back, hai detto if you go back. If you go back. If you go back è come con i black, esatto. If you try black, esatto, you don't. Esatto. Ma che Parenzo, voglio sapere una cosa, perché sta zitto e Parenzo, sta zitto. Da solo. Sto zitto perché godo di fronte a questa sua gelosia assoluta, lo so, rosica, questa rosica. Sua pruderia che rosica. Ma non rosica. È detto che sia geloso di me, magari è geloso di lui, magari ai Lambert lo voleva lui. No, perché no, io no. No, del quello fatto no. Che siccome è un cinquantenne decadente, so. E invece ormai Christophe, comunque alla sua età, insomma, vabbè, ma lì è molto charmant, è molto amore, stiamo parlando, voglio dire, l'hai detto tu giustamente, ma hai tolto le parole dalla bocca. Io non voglio parlare della storia, ma voglio difendere lui perché se lo merita, oltretutto è simpaticissimo, Cruciani, a differenza tua, peraltro. Vabbè, ma sai, la simpatia, che ce fai con la simpatia? No, è che ce fai, il minestrone, che ce fai? Metti tutto il resto, ho capito, minestrone, voglio che dire. Ce fai? Ma amore, ma non è, cioè, voglio dire, non è la sua unica dote. Ma hai fatto pace con la Santanchè o no? Non ho capito. Sì, ho fatto pace. Perché e che vi siete detti? Com'è andata? Che vi siete detti? No, è andata così. Io sono andata in un ristorante a mangiare, sì. A Courmayeur. Come Sarri e Mancini, prima se ne dicono di tutti i colori e poi fanno pace, ma vi rendete conto? Ma è come i ladri di Pisa che vanno a rubare insieme e poi dopo no, com'è che diceva Berlandi, diceva, ma sono come i ladri di Pisa che litigano di giorno e poi la notte vanno a rubare appunto, insieme. Appunto, siete una buffonata. No, non è affatto una buffonata, perché io ci rilitigherei se fossi in una trasmissione televisiva, perché quelli rimangono. E allora com'è andata? Vi siete incontrati? Però la conosco e voglio dire, non è che con tutti quelli con cui litigo in televisione e radio non parlassi più, non parlerei più con nessuno, soprattutto con te, Cruciani. Sì. Allora, è successo che sono andata a mangiare in questo ristorante, sì. E sono arrivati loro un gruppone grosso con la Mara Carfagna, con oh, scusami, che adesso devo mettere giù, non posso rispondere. Aspetta. È Lambert, è Christopher Lambert. Allora, mettilo in collegamento, ti allora, prego. Ma non ci pensare proprio. Mettilo in collegamento. Ma no, ti pare che Christopher, del genere. Poi Christopher, I hate you. I hate you. No, ascolta, non volevi sapere che si sta scherzando no, anche il telefonino. No, Sex Lander. Soprannominato, si può dire Sex Lander, sì. Sex Lander. Si può dire di Cruciani. Non volevi sapere della Sant'Angelo? No, ormai è tardi. Dai, mi è stato suggerito da un amico questo, lo dico subito. Sexlander. Sexlander non è mio, ma è di un amico, di una persona. Un amico che dice Sexlander. Come lo chiama? Sexlander. Va bene come cosa, Sexlander? Ma perché? No, ma è una cosa positiva. Ma quando parlate date anche un senso alle vostre parole, date fiato. Ma no, ma nel senso che per te è Sexlander, no? È anche un... Sex. Sex, io pensavo Tex. No, Sexlander. Ma allora ma ti sei fissato? Ma non è che tu sei un monomaniaco, ninfomaniac? No, alla fine, guarda, preferisco la masturbazione. Vabbè, ma non avevo dubbi, si vede, un pochino. Ciao, a presto, ciao. Ciao, tesoro, ciao. Bacio. La volete sapere una cosa? Andate a quel paese.